tuo Parenzo sembrate a volte i deregi evoluti, avete un enorme sarchiapone lì come Walter Chiari, ma non si sa che cosa minchia c'è dentro. Allora, cioè, perché sei così? Perché sono uno stronzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Marco se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo del mattino grigio di città, a scuola il banco è vuoto, un Marco è dentro me. È dolce il suo respiro fra i... Beh, cari amici, cari amici, cari amici della Zanzara, caro Parenzo che sei a Roma, ha sbroccato di nuovo Pannella. Io infatti quando sento questa intro, come si dice, so già che andremo lì, poveri, ma mi dispiace perché io perché voglio bene. Perché ti dispiace? Ha sbroccato. Perché io ormai a Giacinto ho detto Marco, voglio bene. Allora, a un certo punto che è successo, cari amici? Perché torniamo su Pannella? Perché? Perché torniamo su Pannella? Poi a radio e in Audi. Abbiamo capito. A Radio Radicale sono pure un po' perversi. A un certo punto rimettono in circolo una telefonata di Pannella, credo di qualche giorno fa, forse domenica, che a un certo punto sta sentendo Radio Radicale, Radio Radicale, dove pronunciano in modo sbagliato il nome del nuovo candidato del Partito Democratico, no? Che si chiama Pigliaru o Pigliaro, non so come cazzo si chiama quello là, il professore, no? Lui lo pronunciano male il nome e lui interviene per correggerli, senti. Buonasera, ma qui ti telefona un cugino abruzzese della Sardegna da te involontariamente offesa. Nel senso che se dici un'altra volta Pigliaru, ti dico pigliatelo in quel posto, perché è Pigliaru e non è da adesso, ma da 40 anni il nome di Pigliaru. Padre figlio è un bel nome importante anche per la penisola, per il continente. Non ne posso più. Vabbè dai ragazzi, ho voluto precisare. Ma dai su. E ti dico piglialo. Ma non è possibile, dai. Vabbè, ma ha voluto precisare. Ma uno che cosa sta a manetta ha telefonato. Dai su. Dai Marco se n'è andato via, dai. Se non sapete chi è cugino, poi dice siete degli stronzi, sempre a questi di Radio Radicale, dai, insomma, E volevo fare un saluto, perché pare che non vadano più di moda, visto che si fanno anche lì, mi pare, quella roba che dice Renzi che si deve fare, non so, con i vecchi, eccetera. Un abbraccio e un augurio grande a Cusino. Se non sapete chi è Cusino, siete degli stronzi, ridotti stronzi dalla comunicazione del continente. Buondì, buon lavoro, grazie a Radio Radicale, auguri e forza. Ma chi è sto Cusino? Però siete degli stronzi. Dai, Cusino? Cusino? Ma chi diavolo è sto Cusino? Ma il continente perché? Ah, perché dici quelle che stanno in Italia. Dai, su, ma chi è sto Cusino? È un comune italiano. Sei uno stronzo, non sai chi è Cusino. Sei uno stronzo. No, ma Cusino è un comune, Cusino. Ma non penso che parli di quello. Non lo so. È un comune in provincia di Como. Ma no, no, no. È Cusino? Dai, su. In banca bagni. Chiamate l'ambulanza. Cusino? Non capisci un cazzo. No, ho capito, io non capirò niente, sarò ignorante, tu invece sei un genio, però a un certo punto spero di non arrivare, di non arrivarci a quel punto, però scusami, caro Marco, uno che chiama e arrota con Radio Radicale, chiama per cazziare i conduttori perché pronunciano il nome di Pigliaru o Pigliaru. No, ecco, su. Appunto, ti ha spiegato come si dice, però, scusa. Pigliaru, sì, vabbè, ho capito. Scusa, dai, ha spiegato. Sì, vabbè. Poi dice che c'è solidarietà tra pecorari, tra i sardi e gli abruzzesi. Sì. Poi questa prendetela come solidarietà dei pecorari, che siamo noi abruzzesi e loro sardi, con semplicemente non è ancora chiarito quale dei due pecorini è migliore, ma questo lo vedremo nel tempo. Quindi grazie, scusate, ma questa interferenza, come dire, urgeva, perché fra pecorari e pecorini, beh, in fondo c'è una solidarietà importante. No comment su Pannella, non si può aggiungere altro alla solidarietà tra pecorari, il pecorino sardo e abruzzese. Ha fatto talmente tanto per questo paese. Ha fatto l'interferenza, interferenza, ha fatto 10 minuti è durata l'interferenza, come al solito. Beh sì, ha fatto il suo editoriale. Vabbè, impazza l'inutile discussione, cari amici della Zanzara, l'inutile, inutilissima discussione sulla cannabis. Ma perché inutile? No, inutile per fare un po' di chiacchiera. Manconi ha firmato questo splendido disegno di legge in Senato. Ah, benissimo, ottimo, stupendo, meraviglioso. Appunto. Però senti, però cosa dice. Non si farà nulla, come dicono qui. Senti cosa dice, senti cosa dice l'amico Malan. Ma non ce ne frega niente. Sono dietro il vetro. Che dicono quelle? Che dicono? Fanno gei, quelle. Che dicono? Ne chiamo una. Fumano tutte le canne, ovviamente, no? Si fumano le canne. Sì, sì, sì. Allora, diciamolo subito. Le ragazze che collaborano con Minoli si fanno le canne. No, ma no, diciamolo. Devi dire, ma stai diffamando, ma lo diciamo, ma sono arrabbiatissime qua dietro. Stai diffamando le ragazze. Si fanno, vieni le qua. Canne puntualmente. Vieni, qui, vieni si fanno qua. Puntualmente. Ti faccio parlare con le una di loro. Minoli's Girls. No, le Minoli's Girls. Ma guarda che ti prende una querela per diffamazione aggravata. Lo sai che abbiamo in preparazione una rubrichina fra poco, domani te la presento, una rubrichina, una rubrichina. Poi te la presento domani. Allora, scusa, la notizia, non devi dire cazzate. No, ma non queste non sono cazzate. Le Minoli's Girls. Ma si ammazzano di canne, ma non, ma non c'è niente di male. Ma non c'è niente di male. Aspetta, aspetta. Che diffamazione! Sobillate, sobillate dall'assistente che gli abbiamo spedito qua da Milano, signor Longoni. Non è vero, ma perché fai il nome di Longoni? Dove si fa le canne? Vabbè, lasciamo perdere che è gente che la persona non conosco. Malan dice. Malan Lucio, dici? Sì, quello di sì. Forza Italia, no? Sì. La droga fa male, sai quando l'ha scoperto? Senti. Sapete chi mi ha convinto che sia sbagliata la liberalizzazione? Quando nelle manifestazioni radicali, fatte con 100 buone intenzioni, arrivavano però i ragazzetti a cantare la canzoncina Marco dacce la roba. Ecco, questa è la cosa come viene interpretata. Vabbè, adesso Malan, non è che hai capito che la droga fa male perché i ragazzini andavano da Pannella a dire Marco dacce la roba, che è vero ovviamente, no? Perché Pannella faceva le manifestazioni. Non ti ricordi? Non si è mai drogato, Piazza Navona, in cui... certo. Com'è lui che faceva? La teneva in mano, com'è arrivava la polizia e faceva tutto il comizio di un'ora, sì, per che dire faceva? Che questa era libertà, il diritto, e la gente che era lì diceva dacce Marco la roba! Taglia corto, dacce la roba, dacce la roba Pannella, dacce la roba. Ora tra poco distribuirò libertà, distribuirò amore, tutti diceva sì, ho capito, però dacce la roba Marco. Scusate se vabbè, comunque no, non c'è disturbato studio, però Malan che capisce che la droga fa male da quando ha sentito i ragazzi che andavano a Piazza Navona, è una cosa, non si può sentire come al solito. Oppure Salvini, non è da meno l'amico Salvini, quando dice mio figlio non comprerà mai la droga dal tabaccaio, sì, però dallo spacciatore sì, Le droghe sono droghe, punto, quindi non mi interessa se nel Colorado le vendono ai ragazzini, ho un figlio di 10 anni, mi rifiuto di pensare che nel nome di un malinteso progresso fra qualche anno possa andare a comprarsi lo spinello dal tabaccaio. Quindi è l'ultima delle battaglie che la Lega farà, anzi non farà mai una battaglia simile, lo posso assicurare. Voglio precisare all'amico Salvini che magari il figlio non andrà dal tabaccaio, però lo spacciatore sotto casa è pronto lì a consegnare la droga. Poi la droga in generale, ci sono droghe e droghe, no? Droghe leggere vengono chiamate non droghe, tra l'altro. Vabbè, questo adesso tu non esagerare, fanno sempre male comunque, bene, non è che fanno bene, non è che fanno bene, diciamo, eccolo che fanno bene. Qua, ecco, non è che fanno Cruciani, bene, ecco in quantità eccessive, eccolo non fanno che bene. Lui. In ecco quantità Don eccessive, Cruciani. Ma ecco che Don do, Cruciani. A me lo dici, a me. Don Cruciani. Ma a me lo dici. Dici delle cose, dici delle cose che provocano molto più dolore di una canna, tu. Ma io, tu dici figura, delle io cose sono... che provocano, tu usi delle parole che provocano, sei più nocivo tu di un cannone. Ma io sono, ma scusa, ma io sono a favore della legalizzazione, no? Ma quello che dici è più nocivo di farsi una canna. Senti questo leghista, si chiama Candiani, signor Candiani, ospite credo a Sky fosse. Vorrei sareste un autista di un autobus sotto effetto di droghe? C'entra? Ma cosa diavolo ma c'entra? Come se uno, ci volete un autista che ha bevuto un bicchiere di vino prima di mettersi al volante? Chiaro che no. Voi vorreste avere l'autista del bus di vostro figlio? Ubriaco? Che se ne va ubriaco, ubriaco o che si è appena fatto una canna con la lucidità di una persona di questo tipo? Danzano come zanzare, queste ombre sulla strada. Abbiamo grandi novità, grandi notizie anche sulla Corea del Nord. Fra poco ve le daremo più avanti durante la trasmissione. Perché al signor Razzi, mi sono fissato con la Corea del Nord. Al signor Razzi si è aggiunto un mostro sacro del basket americano, un po' in disuso in realtà, un po' in ribasso, il quale ha fatto addirittura una canzone per celebrare il compleanno di Kim Jong-un. Cosa incredibile. La coppia Dennis Rodman, Antonio Razzi spopola nel mondo. Però è successa una cosa molto grave in questi giorni a Milano, caro Parenzo. Una cosa gravissima, gravissima. Diciamolo subito, molto molto grave. Ho visto. C'è un gruppo di estremisti, che ha appeso dei manifesti, ha stampato dei manifesti contro il muro dell'Università Statale di Milano, con nome e cognome di 4-5 professori, ricercatori, additandoli come degli assassini perché fanno delle ricerche sugli animali. Basta, non se ne può più di questa storia. Io non sopporto queste persone qua. Con i nomi, cognomi, numeri di telefono, tutto. Io voglio capire se c'è lo zampino del movimento 100% animalisti. Abbiamo con noi il presidente Paolo Mocavero. Buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Come andiamo, caro Mocavero? Caro Mocavero. A Padova, signor Mocavero. Me lo ricordo anch'io Parenzo, me lo ricordo signor molto DJ, bene. Come DJ se lo, come che c'entra DJ Mocavero? No, non intervallatevi, se no non sento nulla, uno alla volta, se no non vi sento. Ecco. Sì, ma che c'entra DJ Mocavero? Era un DJ Mocavero ed è uno di Forza, era di Forza Nuova una volta, l'estrema pure, destra. Pure, c'è pure questo Mocavero. Sì, sì, è vero. Certo, era di Forza Nuova, era dell'estrema destra. Mi sono candidato nel 99, tre mesi, volevo fare uno sgambetto all'amicissimo di Parenzo Zanonato. Sì. Mi sono candidato, ho vinto. Sono a posto. Beh, vita, ma poi mi sono ovviamente tolto da questo diciamo dalla politica, non mi interessa. Beh, ma quello che devo fare l'ho fatto. È diventato animalista dopo la politica, dopo l'estrema destra. Animalista? No, io sono come? Parlate una volta però, perché veramente è Parenzo che si intromette. Fascista animalista. Ma Parenzo non è normale, Parenzo è normale. Indica. Fascista animalista ha detto. Ma a parte il discorso del fascista, mi sembra un termine abbastanza anacronistico, no? Ma tuttavia uno che è di destra non può essere animalista, secondo lei, Cruciani? No, come no? Anche Hitler era animalista. Allora dov'è il problema? Anche Hitler era animalista, no? Vegetariano. Non lo so se era animalista Hitler, io all'epoca non c'ero, quindi non posso dire nulla. Anche posso solamente aver studiato una cosa, nel senso che mi sembra nel 33 la vivisezione loro aveva abolita, è un dato di fatto. Ma è una cosa buona, questa, è una cosa buona, era abolito. Per quel che mi riguarda la vivisezione... Abolirla è una cosa buona, certo. Dunque che è buona, Hitler fece una cosa buona. Vabbè, è stata la cosa, Parenzo, se vuole, cioè Parenzo, scusi Cruciani, se vuole buttarla in cacciara, cioè tirar fuori nazisti, quando ha fatto i settori, a me voglio dire questi giochi non mi piacciono. Ma no, sto dicendo. Se vuole parliamo di manifesti, eccetera. Se dopo vuole additarmi come la maggior parte degli anarchici animalisti, come nazista, fascista, eccetera, personalmente. Ma se lei ha detto che hanno fatto una cosa buona, è lei che l'ha detto, non è che l'ho detto io. Ho detto cosa buona. No, insomma, se l'ha fatto una cosa buona, perché non darle altro? E beh, io questo volevo sapere. Anche Mao Zedong ha fatto tante cose buone, e io che ho detto? Ho detto una cosa diversa. Ho detto che lei è nazista? Ho detto che lei è nazista? No, no. Lei velatamente. Ma velatamente che? Ma velatamente che fa il processo alle intenzioni? Ma io non l'ho detto. Ma io non l'ho detto questo qua. Non abbiamo chiesto a lei. Non l'ho detto. È una sua interpretazione. Del problema o vuole dire nazismo? Innanzitutto, l'intervista la facciamo noi. Se lei mi ha chiamato a fare, no, ma io adesso l'intervista la facciamo noi. Sì, le ho chiesto. Ha fatto una cosa buona. Lei mi dice di sì, poi dico allora Hitler ha fatto una cosa buona. No, lei vuole intendere, per me ha fatto una cosa buona. Oh, ma io questo volevo sapere, questo lo dice lei. Ma io non è che porta. Sì, vabbè. Allora, mi dica. Ma non volevo dire che lei è nazista o che tutti gli animalisti sono nazisti. Lo vuole capire o no? Che non lo volevo dire. Lo proclamo. No, l'ha detto l'altro giorno. Chi? Il centenario si riascolti la registrazione. No, io non ho detto che sono nazisti. Io ho detto che sono. No, si riascolti. Allora lei parla, non si ascolta neanche. Vabbè, ho detto che sono nazisti. Vabbè. No, ha detto nazi animalisti è un modo di dire. No, nazi animalisti cosa vuol dire a casa mia? Cosa vuol dire? Che so, in qualche caso sono estremisti. In qualche caso sono estremisti. Per me l'animalista è coerente, non è estremista. assolutamente. Scusi, quei manifesti li ha appesi lei all'università, a Mocavero? No, direi proprio di no, per me li hanno appesi tutti tranne che i giornalisti, caro Cruciani. Cioè che è un complotto. Questa cioè è una grossa montatura, sì, degli amici vivi settori. Questa è una grossa montatura, un animalista normale non si sognerebbe mai, anche radicale oppure coerente oppure militante, non si sognerebbe mai di mettere nome e cognome e affiggerlo su un muro. È stata troppo ben organizzata questa cosa. Cioè è un complotto fatto da chi? Caterina Steven, com'è? È un complotto organizzato da chi secondo lei? Non è questione di complotto, è di strategia, è questione di strategia. I vivisettori hanno usato questa povera ragazza, Caterina, che io tra l'altro ho preso le distanze da coloro che l'hanno difesa, perché era come sparare sulla Croce Rossa, hanno sbagliato, li ho condannati per quello che hanno fatto, non va bene. Su questa cosa dei manifesti io personalmente non ci sto, perché è una montatura, non so se è un complotto o un'altra cosa, è una montatura. Ma da parte di chi? Da parte di chi? Da parte delle lobby farmaceutiche, da parte dei vivisettori, ma che da fanno? Parte di quelli che continuano a dire che con la sperimentazione animale, con la vivisezione, perché hanno cambiato anche il nome per rendere meno vergognoso quello che fanno. Scusi, Mocavero, hanno cambiato le parole. Mocavero, cioè lei pensa, che i giorni sono passati d'accordo a sperimentazione? Abbiamo capito, lei d'accordo, abbiamo capito. Lei pensa che ci siano, che ne so, dei professori universitari, dei capi di multinazionali che si mettono lì a fare dei manifesti con le foto, nome e cognome, numeri di telefono di questi qua? Dai, su. No, come ma io sono d'accordo con lei, infatti queste persone che lei ha citato sono molto intelligenti, usano gli imbecilli, mi spiego? Cioè? Perché, ripeto, quello che hanno fatto a Milano non è assolutamente di matrice animalista, non esiste che mi scrivano nome, cognome, indirizzo di cattura. Ma lei che cosa farebbe a questi qua? Ma sono che sono su quelli che hanno citato sui manifestini, sono che gli sfigati sconosciuti, cioè si rende conto? Beh, però fanno sperimentazioni sugli animali. Faccio io? Ma secondo lei io vado ad attaccare un manifesto che non me lo so caga nessuno fino a prova contraria, perché cosa pensa che tutti gli abitanti di Milano siano milanisti che vedono il manifesto e vanno a telefonare a queste persone? Ma lei, la verità è che stanno cavalcando l'onda, che voi avete dato una mano tra presentatrici, giornalisti, eccetera, avete dato una mano a questi signori perché si sentono l'acqua alla gola. Questa l'acqua è la verità. L'acqua alla gola. Questo dovete dire, mi deve lasciare parlare. Mocavero, lei che cosa farebbe a questi sperimentatori? Come? A questi qua, a questi sperimentatori dell'Università di Milano, scienziati, che sono stati additati come mostri da questi che cosa farebbe lei? Ma chi vive se sono animale per me è un mostro fino a prova contraria. E dunque cosa caso, farebbe lei? No, cercherei di aiutare le famiglie che hanno bisogno di soldi invece di sputtanarci i soldi pubblici per questi signori. Cioè? Allora, se la signorina Caterina si trova purtroppo, e mi dispiace tantissimo, in quelle condizioni, è perché la ricerca sugli animali non è servita a un grande... Ha capito? Ma lei dice al contrario, lei dice al contrario che la sperimentazione animale è servita, comunque abbiamo il traffico, un attimo. Sei ancora a casa? Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Nella giornata in cui il governo combina l'ennesimo pasticcio sulla vicenda degli insegnanti, caro Parenzo, sulla vicenda degli insegnanti, 150 euro, a parte che è una vergogna che ci siano gli aumenti, gli scatti per anzianità automatici, lasciamo perdere questo qua, riguarda il passato, però se questi avevano avuto una promessa di restituzione di questi soldi, poi questi soldi devono essere restituiti, c'è poco da fare. Uno Stato che promette e non mantiene, sai. La cosa ridicola è il rimpallo di responsabilità tra i ministri, Carrozza, Saccomanni, che non si deve dimettere secondo la Carrozza, una cosa incredibile. Danno tutta la colpa alla burocrazia, magari sarà anche vero, però alla fine chi è che, cioè, chi è l'ultimo responsabile se non il governo, i ministri? Chi è? Non è che possono dare la colpa ai burocrati. Non sapevo, decidere la burocrazia. Parole. Tutto finito. Tutto finito. Prenda atto che ormai è tutto finito. Quando tutto sembra poesia, la cruda verità se mi guardi, ti giuro. Ma lei, caro Mocavero, presidente del Movimento 100% Animalisti, se avesse l'indirizzo di casa di questi signori, cosa farebbe di questi signori, cioè di questi ricercatori che utilizzano gli animali e lo affermano in maniera tranquilla, in maniera trasparente? Mi dica. Cruciani, io sono animalista, ma non sono cretino. Mi spiego, glielo vengo a dire a lei. Cosa farebbe questi qua se sapessi l'indirizzo di casa? Dico a lei, glielo dico. E no, cosa farebbe? Una carezza? È presuntuoso da pensare che glielo venga a dire. Ma io lo sto chiedendo, non risponda. Io le ho risposto. Cosa farebbe? Non glielo vengo a dire di sicuro a lei cosa farei, no? Cioè, andrebbe sotto casa? Ma no, vedi che mi metto parole in bocca, come prima che ho detto che lei ha sostenuto. Ma che le io sto facendo sperimentazione, non farebbe niente. No, lei ha detto che io ho sostenuto, che sostengo la sperimentazione, lei ha detto una fregnazza. Io ho detto semplicemente che la povera Caterina che si trova in quella condizione è palese che la sperimentazione animale non è servita a una grande fava. Questa è la verità. E lei mi ha messo in bocca che io sono a favore della sperimentazione. Lei dice mi fido più dei medici che di Mocavero. Francamente, mi fido più degli scienziati che di Mocavero. Lei dice il contrario, la signora Caterina dice il contrario. Ho capito, ma lei purtroppo lei ha espresso la sua opinione, più o meno condivisibile, ovviamente io non condivido, come la sua, la sua opinione, come la sua. Certo, questo è poco, ma questo è chiaro e palese, siamo penso tutti d'accordo, io, lei e Parenzo. Sì. Io dicevo semplicemente che i vivi settori hanno sfruttato questa ragazza, perché settori. Era un caso nazionale a cui il popolino purtroppo c'è cascato. Vabbè. Ok, e qua ci siamo. Ma voi siete andati a rompere le palle pure a Briatore, pure a Briatore. Beh, insomma, un calciatore è il minimo a rompergli la palla, un calciatore è il minimo, o è per la caccia, lei Cruciani. Io sono a favore della caccia, mi sembra che lei fosse a favore delle pellicce. Lei sa cosa fanno gli animali della pelliccia, Cruciani? Lei sa come si fa una pelliccia? Sì. Lei mi permetta questa cosa, io diverse volte ho ascoltato il suo programma, con molto piacere, nonostante ci fosse Parenzo, però... Lei purtroppo mi creda, mi sta convincendo che lei è un colpo di culo quello che ha avuto a Radio 24, perché se lei mi difende le pellicce è vergognoso. Ma io non sto dicendo come fanno le pellicce, lei sa come fanno le pellicce. Mocavero, lei sa pazienza. Cosa fanno i dissettori agli animali? Ma cosa fanno i macelli degli animali? Mi dica. Mocavero, scusi un attimo, io non è che sono a favore delle pellicce, a me le pellicce mi fanno schifo. Come l'ha detto? Come gusto mi fanno schifo, Mocavero. Come gusto mi fanno schifo, ho detto che non sono certo per proibirle. Uno con gli animali ci fa anche le pellicce, pazienza, ci sono tante cose brutte nella vita. Ma questo lo dice lei, noi faremo di tutto per impedire che uno con gli animali lo impedisca, va bene. Ma non ho capito, lei non può gestire la vita degli altri animali, degli altri esseri senzienti, lo capisce questo? Ma mi stupisce. Perché lei mette sullo stesso piano, lei mette... La televisione non ha mai sfondato, quindi forse c'è un motivo. Ma che c'entra questa stronzata? Però è stato un po' male, e qua dimostra appunto la sua mancanza, le sue lacune in questo settore. Professor, mi scusi. Come fanno le pellicce? È vergognoso. Professore? Non mi può difendere le pellicce. Posso capire che mi difende la presentazione animale, perché anche lei è infarcito di quello che le racconta. Signor DJ Mocavero? Ma non mi parli di pellicce, di cacciatori, di queste stronzate. Non esiste. Cacciatori, io difendo la caccia perché è una pratica lei che esiste da secoli. Se lo fa il vaccino, Mocavero, lei? Me frega le pellicce, no, me ne frega niente. No. Bravo. Io il vaccino me lo faccio, e lei non si deve azzardare ad impedirmi di farmi il vaccino e di curarmi come mi pare. Capito? Adesso dico la verità. Se lo faccio il vaccino, ma anche 5-6 se ne faccia di fila, speriamo che dopo forse ne venga qualcos'altro. Cosa dice con i vaccini? Perché se non l'aspirina la prende? Se lo faccia pure. Anzi, l'aspirina? Mi pega, continui a farti il vaccino. L'aspirina la prende, Mocavero? Lei sicura in qualche modo? Non la prende, neanche l'aspirina. Se devo prendere dei medicinali, prendo dei generici che non sono testati sugli animali. Sì. Ecco, l'unico medicinale che posso... Le auguro di stare sempre bene, guardi. Davvero, le auguro di stare... Sicuri sempre senza infatti voi continuate a curarmi, io mi sto toccando dappertutto. Ma no, ma non le auguriamo nulla. È il contrario. Non le auguriamo nulla. Figuri, non le auguriamo nulla. Anzi, mica siamo come lei che vuole appunto. La morte dei cacciatori. Lei vuole la morte dei cacciatori e anche di quelli che sperimentano. No, non è che voglio la morte dei cacciatori. Lei esulta. Io voglio che la caccia sparisca prima di tutto. E se un cacciatore ci sta sotto, personalmente a me non me ne può fregare meno, perché una persona che va a ammazzare un essere senziente con il fucile, un animale disarmato, innocente, disarmato, i cazzi suona nel bosco, deve scoppiare, ma non esiste. Deve morire, allora deve morire. Lei vuole la morte dei cacciatori? Lei vuole la morte dei cacciatori? No, io spero che si estinguano, che è un po' diverso dalla morte. Beh, è uguale. Cruciani, si ammazzano tra di loro, quindi il problema è risolto, perché questi qua sono talmente idioti che oltre che avere tanto vino quando vanno a caccia, scambiano uno dei loro colleghi per un cinghiale e lo ammazzano. Questi sono i cacciatori. C'è gente di 74 anni che nel periodo estivo, quando fa caldo, prende il fucile e spara nelle finestre dei vicini. Queste cose voi non le dite, ci sono pochi giornalisti che le dicono. La le sta dicendo lei, le sta dicendo lei, non c'è problema. No, da questo punto di vista qua posso solo ringraziarla. Allora lei lo sta dicendo. Ci sono gente che ha 80 anni che è armata in casa, lo sa questo? Beh, ma questo non serviva a Mocavero. Dopo ammazzano la moglie, ammazzano i figli, ammazzano il vicino. È successo, basta fare una ricerca. Ma Briatore, che le ha fatto di male, Briatore? Mi spieghi che le ha fatto di male? Secondo lei è normale che una persona a quel livello lì si faccia immortalare con dei minori, tra l'altro, con dei minori davanti a dei fagiani uccisi, mi dica adesso normale? Se lei non riesce a capire il messaggio, non importa. E come lo considera? Come lo considera lei? Come lo considera, Briatore? Come persona? A livello, secondo me, imprenditoriale, tanto di cappello. Come mi ha fatto vedere quella fabbrica cacciatori, mi ha dato sulle palle automaticamente, normale. Cioè, come lo considera? Cioè, un poco di buono, un alleato. Una dei... persona insensibile, come è stato insensibile lei quando ha preso un fucile in vita sua, non ha mai cacciato in vita sua, Briatore. Ma questo l'ha detto per fare la figura di merda completa, questa è la verità. Lui l'ha dichiarato su Twitter, dopo il nostro blitz, lui l'ha detto, intanto quella foto se l'è fatta, già sotto stesso si fatta fotografare con dei fratelli non uccisi, si può fare mai. Bambini vicini, mi dica lei se persona normale, cioè, dica, e che cos'è un coglione? Che cos'è un coglione? Cos'è? Ma lo sta dicendo lei che è un coglione? Lo posso pensare anch'io, per l'amor di Dio, però lo sta dicendo lei, la ringrazio. Pubblicità. Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide, Giuseppe, vi voglio bene. Oh ragazzi, un po' di politica, perché Renzi ieri ha detto la sua su alcune cose, per esempio la questione delle droghe, no? Le droghe leggere, le droghe pesanti, ha detto che è contrario, figuriamoci, meno male, all'equiparazione tra l'erba e l'eroina, però poi che vuole fare su questa cosa qui? È chiaro o non è chiaro? È trasparente? È comprensibile? No, perché insomma... Le origini di Renzi quali sono? Origini democristiane, no? E tornano fuori in certi momenti. Tornare alla distinzione leggere e pesanti, no legalizzare. Insomma, che vuole fare? Iniziamo a rimettere la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti. Mi pare che sia abbastanza schizofrenico un paese in cui si passa dalla proibizionismo più totale, paragonando allo stesso, mettendo sullo stesso piano droghe leggere e droghe pesanti, alla stessa forza politica, la Lega, che improvvisamente dice no, non soltanto non siamo più d'accordo con quello che pensavamo prima, ma addirittura ora siamo per la legalizzazione. Un po' di buonsenso in Italia mai, cioè una cosa semplice. Iniziamo a dividere, a cambiare la Fini Giovanardi, che è una leggiaccia. Dov'è che dice no legalizzare, scusate? No legalizzare, lo dice o non lo dice questo no alla legalizzazione? Dice solamente ritocchiamo la Fini Giovanardi. È facile dire ritocchiamo la Fini Giovanardi, lo dicono tutti. Come farlo però? Poi Alfano un altro, dice siamo la quarta forza politica. Ti ricordi come dicevano i pentapartiti socialdemocratici? Sì, sì, siamo esatto, la quarta forza politica. Ammazza, siamo la quarta forza politica. Ieri sera chi abbia visto Ballarò, io poi ho visto i commenti su Twitter, non ho avuto modo di vedere Ballarò, ma chi abbia visto Ballarò ieri sera, e saranno stati molti milioni, avrà potuto notare come il nuovo centrodestra è ormai stabilmente la quarta forza politica del paese, con un nuovo centrodestra ad una cifra che per essere una start-up è ragguardevolissima, ossia il 7%, che è un dato consolidato e che noi pensiamo possa davvero crescere. I socialdemocratici degli anni 2000. Vabbè, Brunetta ha fatto impazzire Minoli questa mattina, sentiamolo battibeccare, ma insomma non è una novità. Brunetta Minoli. Riusciamo a dire una cosa di politica o no? Avete cominciato voi con... Ho capito, ma adesso andiamo avanti. Ho capito, ma se spiazzate voi spiazzo no, io. No, sto scherzando, le chiedo. L'accordo Renzi-Berlusconi, secondo lei è vicino o no? Cioè questa è una settimana buona o no? Lei i sogni sono desideri. Ancora. Che fa Letta? Si accoda? Se Letta, se il presidente del consiglio è il presidente del consiglio. Onorevole Brunetta, allora questa settimana si chiude? Ma dipende da Renzi, il padrone sarà vero. Si chiude su quale modello? E chi lo sa, domandatelo a Renzi. Cioè abbiamo sbagliato telefonata, dice. No, tutt'altro, è che non avete solo voi il monopolio dell'ironia. No, va bene. Da un certo punto di vista non è che c'ha torto qui, eh. Ognuno poi può rispondere come cavolo gli pare, eh. Minoli. Oh, ma dicevano che Gaspari era nella blacklist. Nella blacklist di quelli che non devono andare in televisione. In realtà è andato in due trasmissioni ieri, Ballarò e Omnibus, e poi ad Agorà stamattina. Senti, nel mio spazio sotto salice, salice, non stare lì così, mettiti comoda, comoda, sull'erba. Vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, Forza Italia, buonasera. Voglio salutare il senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia. E infine Agorà. Buongiorno, ringrazio questa mattina. A Maurizio Gasparri, buongiorno. Forza Italia, vicepresidente. Ma quale blacklist? Senato. La blacklist non esiste. Titoli del TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Gli insegnanti non dovranno restituire 150 euro di scatto maturati nel 2013. Il governo fa marcia indietro, ma scoppia la lite tra Saccomanni e Carrozza. Un ragazzo di 17 anni precipita in un pozzo luce adiacente il cortile del liceo De Giorgi di Lecce, muore dopo un volo di 10 metri. Il governo annuncia l'emendamento sulla casa, l'aumento della TASI per finanziare le detrazioni Salva Roma, il Senato ribalta stop delle commissioni. Tensioni nella maggioranza sulla legge elettorale, Alfano mi fido di Renzi, smentito l'incontro tra Berlusconi e il segretario democratico. INPS nel 2013, boom delle richieste di disoccupazione tra i giovani, record dei senza lavoro, Giovannini contro l'emergenza, serve la crescita. Fermato l'assassino dei tre anziani uccisi nella loro villetta di Caselle Torinese, il convivente dell'ex colf aveva un debito di 500 euro. Parla il magistrato che indaga sull'incidente di Schumacher, non soccorreva nessuno, non è stato imprudente, la conferma dalla telecamera che aveva sul casco. Sull'inno coreano, sorbitevi questo Razzi, uno dei grandi amici della Corea del Nord, che dice che la Corea del Nord è come la Svizzera. Apprezzo che c'è una somiglianza molto alla Svizzera, dove io ho vissuto per oltre 40 anni. E le persone sono precise per quando si danno gli appuntamenti e poi c'è una pulizia per le strade molto molto pulita, e questa è una cosa che mi ricorda la mia Svizzera. L'altro grande alleato di Kim Jong-un, dittatore nordcoreano, è l'ex cestista un po' malandato con 4.000 orecchini al naso dappertutto, un po' vecchiotto, Dennis Rodman, che ha vinto un sacco di titoli nell'NBA, il quale oggi fa da ambasciatore tra l'Occidente e la Corea del Nord, almeno dice lui, attraverso il basket, ma fa soprattutto un omaggio al dittatore nordcoreano con un happy birthday, robe da matti, signori! Happy birthday to you. Ce ne sono di matti in giro, eh? Abbonda di matti! Beh, anche Salvini, devo dire la verità, quando dice il sesso non fa male, la droga sì. Vabbè, sentiamo un po' Salvini, dai. Il sesso non fa male, la droga sì. A parte che anche il sesso può fare male. E la Lega fa questa battaglia. Se c'è una cosa che si vuole legalizzare è la prostituzione. Il sesso non fa male, anzi, la droga fa male. Punto. Va bene, va bene, va bene, Gianluca da Terni. Sì, buonasera Gruciani. Io ho chiamato, a parte ho un rientro molto fastidioso, non so se lei mi sente bene. Io la sento benissimo, dica. Bene, io ho chiamato per sapere come lei non si vergogna. Perché è mi una devo cosa vergognare? Incredibile, guarda. Perché? Perché ho mangiato il cane qualche volta? Perché? No, ma no, guarda, questo non dovrebbe neanche dirlo perché è una cosa schifosa. Ma proprio, ho mangiato il cane, ho mangiato la carne di cane in Corea. Dove? Allora? In Corea del Sud. Vabbè, guardi, neanche commento. Io commento. Ma non commenti pure. Che ho mangiato la carne in Corea, in Corea del Sud. Se ne vanti, se ne vanti. Ma non me ne vanto per niente. Ho mangiato. Ma non è una cosa schifosa. Ho mangiato la carne di cane. Fa schifo lei. La carne di cane. Ho mangiato la carne di cane. Allora. Comunque, detto questo. Ma farà schifo lei, ma farà schifo lei. Farà schifo lei. Ma io non ho mangiato la carne di cane. Ma farà schifo lei per altri motivi. A lei le pare una cosa normale? Ma certo, ma io l'ho fatta, a parte che l'ho fatto per lavoro. Cioè, hai mangiato la carne di cane per lavoro? Ho mangiato, ma l'ho già detto mille volte. Sì, lo so, ma per lavoro, che vuol dire? È normale mangiare carne di cane, è normale per lei? Ma non è normale, non sto dicendo che è normale. Ah, non è normale. Ho detto che va bene. Ho detto che lei ha cercato di far passare come un estremista quel signor animalista di prima. Beh, certo, non è un moderato, diciamo, non è un moderato, non è un moderato, uno che dice che è contento se tutti i cacciatori scompaiono dalla faccia della terra, non può essere classificato come un moderato. La cosa dovrebbe sparire la caccia, non i cacciatori, quello ok. Ma una proposta per lei, sì, lei mi è dica. Così pro vivisezione. Ma io non sono pro vivisezione, che peraltro è peraltro peraltro è vietata in Italia la vivisezione. Smettiamola di parlare di queste cose, è vietata. Se è vietato o no. Ma come lasciamo perdere? Io non sono a favore della vivisezione, io sono a favore della sperimentazione sugli animali, va bene? E che è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Guardi, è meglio ancora. La mia proposta è ancor più calzante. Lei è a favore della sperimentazione. Sì, allora... dia in pasto lei, no? Perché non si dà in pasto lei? Vabbè, ma adesso... No, lei si dia in pasto alla sperimentazione. Ah. Lo sa qual è un detto molto volgare, ma si addice alla sua persona. Sì. Sono tutti froci con il culo degli altri. Sì. È a favore della vivisezione degli altri. Ma io ho detto degli animali, ha capito? Degli animali. Io non sono un animale, ha capito? Si dia in pasto alla scienza. Si non sono un animale, non sono uguale a un topo o a una cosa, ha capito? Non sono uguale ai topi che vengono sui quali si sperimenta, ha capito? Che non lei non è uguale a un topo. Chi non lei si sente uguale a un topo? Lei si sente uguale a un topo? Lei si sente uguale a un topo? Ma certamente. Benissimo, ma se lei si sente come un topo. Ma se lei si sente come un topo, contento lei, contento lei. Fisico, lasci perdere l'intelletto, che anche su questo ci sarebbe da discutere, sul suo intelletto. Vabbè. Il dolore fisico che prova un topo è esattamente come il mio dolore fisico. Benissimo. Si dia in pasto alla scienza. Perché lei non si fa non fa in modo che venga sperimentato un qualcosa sulla sua persona, sul suo fisico? Visto che è così pro dolore ha finito con le cazzate o no? No, le cazzate le dice lei, non le dico io. Ha le finito cazzate o no? Ha finito è o no? A favore o no della sperimentazione? Certo che sono a favore sugli animali. Perché non sugli fa in animali modo che sperimentino su di lei? Perché c'è una bella differenza tra un topo e un essere umano, ha capito? Ma lasci perdere il topo, le piace parlare del topo, parliamo delle scimmie allora. È uguale, la stessa perché cosa. Perché non fa in modo che a parte che bisogna vedere dove è permessa la sperimentazione delle scimmie, in quali paesi, in che modo, eccetera, eccetera. Perché non fa in modo che vengano fatti degli esperimenti vabbè su di lei? Ma lei vuole esagerare su questo punto, la vuole buttare non in cacciara, la butti in cacciara, va benissimo. Non sto esagerando perché sta parlando con una persona sì che considera il dolore di una scimmia bene esattamente equivalente. Dunque al lei a favore che allora, lei quelli che sperimentano sugli animali li chiama assassini? Assolutamente. Bene, ma io sì, benissimo, ma assassini. Cosa, visto che lei non si è fermi in grado un attimo, si fermi un attimo. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Io, David Parenzo, voglio bene a Dell'Utri. Voglio bene a Dell'Utri. Ai, ai, mi ha beccato. Gratta, gratta, ma peggio è. Ma vi pare normale che ci sia una polemica sul film di Virzì? Il capitale umano. Allora, devo dire che Virzì ci ha messo del suo, perché un'intervista a Repubblica dice: a proposito della Brianza, cercavo un'atmosfera che mi mettesse in allarme, un paesaggio che mi sembrasse gelido, ostile e minaccioso. Ha girato questo film a Osnago, vicino a Varese, città ricchissima che esprime il degrado della cultura con quel suo unico teatro, un teatro chiuso in rovina. La zanzara è l'imprendibile insetto, che le più volte non lo vedi mai. spegni la luce. Poi dice: mi pare che gli italiani abbiano pochissimo senso civico e che la nostra borghesia sia molto egoista e carente verso i bisogni degli altri. Siamo un paese plasmato dal berlusconismo, dagli ostentatori che rendono volgare la ricchezza e lo spreco, che fa dei truffatori e degli evasori dei martiri e degli eroi. Non so se sia vero o no, probabilmente in parte è vero. Ecco, poi non è una novità quello che pensa Virgilio, no? Di Berlusconi. Sì, non capisco la polemica, no? Non capisco. Ma la polemica è sui soldi pubblici, la polemica è sui 700.000 euro dei nostri soldi che vengono dati per fare un film. Allora io la voglio ribadire, chiaro e tondo, io sono contrario a qualsiasi finanziamento pubblico al cinema. Contrario, cancellare tutto, subito. Ma sono come gli aiuti che vengono dati. Non mi interessa, cancellare, anche quelli, via. Ci sono grandi opere d'arte che sono nate anche grazie a questo contributo. Cancellare, a parte che Virzì non ne ha bisogno. Al massimo bisognerebbe darlo ai giovani. Poi si studiassero cose nuove come le detrazioni fiscali, quello che volete. Ma basta con questi finanziamenti che poi sono sempre fonte di magheggi, di traffici, di raccomandazioni e cose di questo tipo. Ci sono registi che vivono solo di questi finanziamenti pubblici. Dai, basta. La zanzara è quell'odioso insetto. 800 24 00 24. E poi comunque non è che uno può dipingere la Brianza in questo modo, dai, con queste generalizzazioni. Cercava una, dai. No, però scusami, lui cercava un ambiente come te l'ha descritto, no? Anche dal punto di vista della fotografia, della scena, del contesto. Questo era, è un regista, voglio dire, mica un politico. Sì, però un regista che vuole darti sempre, no? Ma perché una... vuole darti una sua, come quelli che dicono vogliamo riprendere il profondo sud, e allora cercano quel paesino, no? A Porto Palo di Capopastro, nel più sud di Italia. Beh, che c'è? E quindi che vuol dire? Che problema c'è? Vabbè, con chi eravamo prima? È un artista. Con chi eravamo? Sì, con Gianluca. Allora, Gianluca, ancora, che c'è? Sì. Che c'è? Ecco. Allora? Stavamo finendo un discorso. Dunque? Mi ha chiesto se considero degli assassini coloro i quali fanno sperimentazione sugli animali. Sì. Sì, certamente. Anzi, peggio, li considero al pari dei mostri nazisti. Al contrario dei mostri nazisti. Benissimo. Dunque, lei a quei ricercatori di Milano, quelli dei manifesti, cosa farebbe lei? Ma io non farei nulla. Immagini se io possa fare qualcosa. Che ne so, gli darebbe un buffetto, uno schiaffetto, li metterebbe al muro, animali. Li condannerebbe a morte, li deporterebbe, li arresterebbe. Ma che ne so? Morte? Li considero per quello che sono e basta. Quali morte? Andrebbe abolita questa cazzo di vivisezione e basta. Si immagini se io non possa esiste. Augurare del male a loro. Non, le sto dicendo che sono contrario al dolore, alla vivisezione. Vabbè. A tutto ciò che comporta dolore nei confronti degli animali, si immagini se no. Io ho mangiato questo, il cane, allora che devo questo fare? Insiste. Ma guardi che non ma le fa. Come era cotto sto cane? Era cotto in un ristorante. Non è roba bella da dire a Seul. Non è una cosa bella da dire. Questo guardi, è vero. Anzi, mi sa che potremmo pure ripescare quel reportage che feci. Feci quel reportage proprio per Radio 24. Sul cane? Sì, 10 anni fa ormai, più di 10 anni fa. Sulla un ristorante dove si mangiava il cane. Dove si mangiava la carne di cane. Non è necessario mangiarla effettivamente. No, ma era un reportage interessante. E sono andato a mangiarla. Mangiare la carne di cane. No, questo ma mi fa non è un vanto. Ma chi se ne frega? Ho mangiato il cane, Gianluca, erano cani da allevamento. A me fa senso. A me farebbe senso. Io non faccio differenza tra cani, cacciagione, la carne e carne, su. Ma che differenza c'è tra la mucca e il bovino? Lo mangi tu, Parenzo, il bovino? Sì. Ma il bovino lo mangi. Certo. E allora che senso, vuoi? Che differenza c'è? Che differenza c'è? Beh, c'è differenza. Ma che differenza? Differenza di ipocrisia c'è? No, beh, anche il gatto. Il cane e il gatto sono stati animali domestici, quindi mi farebbe un po' senso. Mariano da Modena, Mariano. No. Se tu hai un altro gusto, allora buonasera. Dimmi. Io volevo solamente dire, non lo offendo, però è ignorante, perché io dico ignorante quelli che ce l'ha con i cacciatori, in quanto c'è una legge che prevede che io possa andare a caccia. Non beh, questo non c'è dubbio, che c'è, però c'è anche chi si batte per l'eliminazione della caccia. C'è tante persone ignoranti che vanno al governo a comandare, a fare le leggi. Lui si candida, va lì, riesce. Ci hanno già provato tante volte a fare referendum, non ci sono riusciti finché c'è la legge che a me mi permette. Ma lei a chi spara? Lei a chi spara? Io sparo al cinghiale, quello lì che lui ha detto che mi deve venire addosso, che io mi sparo col collega qua e là così, io vado al cinghiale. Per me, io quando sono in mezzo al bosco mi rilasso, sto tranquillo. è una passione che ho da tanti anni, cioè 53 anni, pertanto non è ieri. Sì. Finché io, se domani la legge mi dice tu non vai più a caccia, io sto dietro alla legge, ma lui non deve rompere le palle, non deve averla con la categoria dei cacciatori. E magari viene dalle parti sue a fare qualche manifestazione, che ne so, contro. E che venga tranquillamente, che faccia finta di sbagliare il cinghiale, così invece di uccidere, come dice lui, un collega cacciatore, ammazzo lui, omicidio colposo. No, non mi no Mariano, su, eccolo qua, Mariano. Eccolo qua. Io devo esplodere, ma stai scherzando cosa? Il capo del 100% animalisti, su, il signor Mocavero, dai. Sì, Mocavero, ma me ne fotte, a me lui può essere quello che vuole. Ma non deve parlare così contro delle persone che comunque lo fanno con la legge che glielo permette. Ma lui da cavolo viene fuori, lui può fare quello che vuole, faccia quello, vai lì, faccia un altro referendum, se riesce a vincere io non vado più a caccia, ma deve essere la legge che me lo deve dire, non lui, certo. Lui non è nessuno, può essere benissimo animalista, ambientalista, che cavolo, quello che vuole. Ma lei oltre ai cinghiali, chi ammazza oltre ai cinghiali? Io faccio solo i cinghiali, fagiani. Facevo i fagiani, no, io quello lì non lo faccio più. Fagiani non li fa, eh? No, no, non li faccio. Io ma quanti facevo, cinghiali ammazza fatto. Lei? Quanti cinghiali ammazza? Ma io, che per sfortuna quest'anno solo uno. Vabbè, per sfortuna anni, solo uno. Gli altri anni ne ho fatto qualcuno in più. Ho i trofei a casa dove ho fatto. Ecco, ma quale sensazione le dà sparare a un cinghiale? Allora, il cinghiale, intanto le dico, c'è due tipi di caccia, c'è la selezione e c'è la caccia-caccia. La selezione è quello che tu aspetti lì su un trabiccolo, su un'altana, l'animale che viene a pascolare così. E quello è un tipo che io non faccio. Io faccio la caccia, il cinghiale passa con i cani, dietro dai cani corrono, lui mi arriva. No, ma che sensazione c'è quella di abbattere un cinghiale? Com'è come sensazione? Ma la sensazione per me è una sensazione che quando lo prendo, sì. Spero di prenderlo sempre che lui non soffra, come dice lui, che noi facciamo soffrire il cinghiale così, e per me la sensazione è bellissima. Non si riesce a spiegare, cioè non è che io com'è, come un orgasmo, come un orgasmo, diciamo la verità. Ma sì, dai, come un orgasmo, dai. Visto che mia moglie non vuole che io vada a donne, io vado a godere lì, capito? Okay, sua moglie non vuole che lei vada a donne, te credo che sua moglie non vuole che lei vada a donne. Cioè, meglio che spara un cinghiale piuttosto che va a mignotte. Mariano, allora io l'orgasmo ce l'ho lì, capito? Ma Mariano, ho capito, abbiamo capito tutto, è molto chiaro, grazie. Grazie a voi. Ciao, ciao. Giardino, ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. Oh, il nostro amico Di Battista del 5 Stelle, signor Di Battista. Un tombino al giorno, bisogna sempre citare. Grande piacione, signor Di Battista. Sostiene che Berlusconi lo ha cercato, che lo vuole incontrare, c'è stata qualche ambasciata, addirittura dei messaggi SMS. Ovviamente però non si fa mai il nome e cognome, eh? Dicesse il nome e cognome di quel deputato, di quei deputati o di quelle deputate che avrebbero fatto da tramite, no? Lui però ha rifiutato in maniera sdegnata, dite al presidente che può godersi i nipoti, che al prossimo giro governiamo noi, eccetera eccetera. Berlusconi pare che abbia detto: ma Di Battista chi? Io non so manco chi sia, non ho mai cercato. Glielo diciamo noi chi è Di Battista, sentiamolo qui quando vuole, magari gli piace per questo, vuole dare al macero Repubblica, le copie di Repubblica. Se noi riuscissimo a vincere le europee si creerebbe una crisi di governo, il Movimento 5 Stelle vince le europee, voglio vedere Repubblica che cosa è scritto. Repubblica è buona oggi per incartarci il pesce, per accendere il fuoco. Io rosico perché sono cresciuto con Repubblica, ci credevo, la compravo al liceo, i miei amici mi prendevano pure in giro perché leggevano la Gazzetta dello Sport, io Repubblica, ero un tipo secchio. Ci ho creduto in quel mondo, ho creduto anche che fosse il Partito Democratico differente, ci ho creduto, non lo è, li vediamo ogni giorno, non lo sono. Ma che mondo è questo, ma in che cosa? Marcello, provincia di Udine. Era Cruciani. Vai. Grazie per l'opportunità. Io volevo intervenire in merito alle ultime notizie relative alla legalizzazione della marijuana, delle droghe leggere. Allora? Niente, io parlo per esperienza personale e critico coloro i quali dicono che l'uso di sostanze leggere può portare a delle tossicodipendenze gravi, l'uso di eroina e droghe pesanti. Vabbè, no? Poi? Ecco, la cosa più pericolosa, io ho due figli, no? e sicuramente tra qualche anno verranno a contatto, insomma, con questa situazione, no? E la mia più preoccupazione da padre, la maggior preoccupazione che ho, non è tanto il fatto che i miei figli provino a farsi una canna. Il problema è che per farsi la canna i miei figli dovranno, per forza di cose, allo stato attuale delle cose, rivolgersi a soggetti, a organizzazioni, che sono delle organizzazioni criminali. Che non si occupano solo dello spaccio della marijuana e dell'hashish, ma si occupano di spacciare qualsiasi sostanza illegale. Bravo. Ecco, e questo è il pericolo che io avverto di più. Ed è il motivo principale per cui uno, questo, secondo me, dovrebbe essere a favore della legalizzazione. Anche questo. Infatti, cioè, io sono a favore della legalizzazione per questo. Poi, scusate, leggevo oggi che secondo dei dati dell'ONU, l'Italia è il paese con più alto consumo, in media ovviamente, in Occidente di hashish e marijuana. Ma in Italia c'è la legalizzazione? Non mi pare. Per cui non è che la legalizzazione... più o meno il proibizionismo, no? Anche se poi c'è la modica quantità, l'uso personale, eccetera. C'è però il proibizionismo. Eppure questo non è che ha impedito che l'Italia sia diventata negli anni più alto, il paese dove si consuma di più in media in Occidente hashish e marijuana. Per cui peggio di così, da un certo punto di vista, no, non può andare. Uno si procura la droga come e quando vuole. Non puoi mettere la civiltà di quei coffee shop meravigliosi che ho avuto l'occasione di visitare qualche giorno fa. E di provare. Sì, visitare, no, e provare. Dillo apertamente. Visitare e provare. Ma abbiamo la persona che ha lanciato incredibilmente, perché tutto nasce da un retweet sbagliato, lo diciamo, un retweet da parte di Maroni, la persona che ha lanciato questa discussione. Sembra incredibile, però è così. Gianni Fava presidente, per cambiare finalmente strade e ponti per la gente. Gianni Fava presidente, de fiducia al presidente. Ma... tu non ci potrai credere, ma esiste una canzone per Gianni Fava presidente. Beh, ma però è orecchiabile. Non è manco male, a differenza di altre cose. Ma la differenza di altre porcherie che ogni... Scusi Fava, ma chi è che cantò questa canzone alla Kim Il-sung? Stupenda. Non ne ho la idea, sinceramente, però era simpatica, effettivamente. Ma come non si c'è un rom chiama Gianni Fava. Ma non si ricorda chi è che cantò questa canzone quando lei si candidò alla presidenza della provincia di Cremona, se non sbaglio, eh? Non diciamo che è un'attività che non ho commissionato io, eh. Ah, addirittura. No, però è bella, perché sembra Cristina D'Avena, è amabile, cioè sembra la casa di un cartone animato, no? Sembra un uomo, ma sinceramente, però... No, ma lo stile... Un uomo, certo, ma lo stile del testi, dico. Me la fai sentire ancora? Adesso te la faccio sentire ancora, avanti. Per fiducia ad un vero presidente. Gianni Fava è con noi, assessore all'agricoltura della Regione Lombardia, Lega Nord, buonasera. Buonasera, quando fate così siete irresistibili, in effetti. Però fare questo cimelio è qualcosa davvero di cacciatore di tartufo, bravi. No, ma è ai limiti dell'imbarazzante, ma talmente imbarazzante da essere meraviglioso. Ti assicuro che non è la voglio nel telefonino, la voglio come suoneria del cellulare. Gianni Fava, presidente. Adesso la recupero, parenzo, te la mando sul telefonino. Ma se la vuoi che lei. Un rom non giri per Cremona, vota Gianni Fava, presidente. Veramente questo non piccola, lo diceva. Piccola variabile. Senta Fava, allora io voglio dare una cosa. Mi sembra che lei però sia stato, come dire, smentito. Era una sua opinione personale, l'ha sempre detto. Resta una sua opinione personale. Però insomma, l'intera... Che non cambia però. Ah, questo è importante. Bravo. L'intera classe dirigente della Lega, tranne Bossi, che oggi ha detto una cosa in realtà più moderata di Salvini, più moderata, nel senso più verso di lei. Ha detto: io non sono a favore della legalizzazione, però poi sulle pene si può discutere. Sentiamo Bossi. Ma perché Bossi? Sì. No, perché Bossi? No, perché Bossi la Lega l'ha inventata, l'ha creata e sa bene cos'era la Lega e sa bene perché siamo entrati in Lega. Noi siamo entrati in Lega 25 anni fa perché esisteva, come esiste ancora oggi, una questione settentrionale, perché pensavamo, come oggi pensiamo, che andasse risolta con la politica, no? Ma la politica poi non può prescindere dalla società, questo è il punto. Lei vuole dire che molti elettori della Lega sono a favore sono con Fava? No, me lo dica, no, perché io sono sicuro che è così. Non sono molti elettori, io ho ricevuto tante attestazioni di stima da molti leghisti, così come tante stroncature, allo stesso modo, ci sono equivalse più o meno. Per cui non è vero che il popolo della Lega è a favore del proibizionismo? Visto che voi andate a sfrocugliare tutta la mia vita, andate a vedere su Facebook, vedrete un sacco di commenti di leghisti, di gente che magari commenta con il simbolo dell'Alberto Giussano nel nickname, e che dice hai fatto bene, e ora parla. Però voglio dire, io credo che al di là del contenuto in sé della vicenda resti un dato di fatto, cioè della possibilità di avere opinioni diverse su questioni etiche, morali e sociali all'interno di un partito che ha una sua linea. Poi io alla linea mi adeguo, non è che faccio il matto, esco dalla Lega se la Lega scegliesse ma quello mi pare evidente. Sentiamo Bossi, poi abbiamo 30 secondi. Bossi, ragionare sulle pene o non pene, questo mi pare ovvio, però io sono contrario a liberalizzare la Camera. Gianni Fava presidente per cambiare finalmente. Allora, Gianni Fava, assessore all'agricoltura della Regione Lombardia, si è detto favorevole alla legalizzazione delle droghe leggere. Allora, io volevo capire. Ci tengo a precisarlo. Sì. Io ci ho detto favorevole all'apertura o discussione. Questa è la mia posizione. Però qual è la sua? Lei pensa che vanno legalizzato o no? Io credo che l'emergenza vera oggi sia quella sul versante più squisitamente legislativo, cioè andrà a discutere il Parlamento. Io ho questo difetto che mi dimentico di essermi dimesso dal Parlamento qualche mese fa, ma voglio dire, andrà a discutere il Parlamento nei prossimi giorni. Sì, ma lei personalmente, al di là della discussione che si deve aprire, e quello siamo d'accordo. Io sono favorevole alla liberalizzazione. Alla legalizzazione. Sì, certo. Cioè, secondo lei, tipo di lei cosa immagina? Insomma. Che la droga si possa vendere, che ne so, nei tabaccai come in Colorado? Io immagino, ma i tabaccai, guardi che in Colorado non la vendono dai tabaccai. La vicenda ha una sua genesi. Io sono rientrato dagli Stati Uniti venerdì e le posso garantire che nell'ultima settimana negli Stati Uniti il dibattito su molti media era concentrato sull'applicazione di questa norma del Colorado, che ovviamente anche in quel paese ha aperto un dibattito vivace, ecco, per usare un eufemismo. Ma secondo lei dove andrebbe venduta questa droga leggera in Italia? Dove dovrebbe essere venduta? Che andrebbe controllata con le modalità del caso. Di certo non va venduta sotto i ponti o in qualche giardino pubblico da qualche personaggio che di fatto fa anche altro nella vita e probabilmente anche di peggio. Quindi voglio dire, io credo che alla fine il proibizionismo di fatto ha creato la situazione che viviamo oggi. Cioè basta uscire, io credo che non sia molto difficile in una città del nord o del centro o del sud di questo paese trovare marijuana. Ma è questo il punto? Ma assolutamente sono d'accordo con lei. Basta uscire da qua o basta chiedere a qualsiasi persona che c'è un po' di fumo, eccetera. In due minuti te lo procurano. E qual è la paura per i ragazzi di trovare invece un luogo certificato dallo Stato dove tu puoi comprare delle quantità, ovviamente, di marijuana a seconda dei giorni, di una quantità limitata al giorno? Io non mi avventuro nei tecnicismi. Dico che c'è un dato di fatto, che è il dato di fatto della vita che si vive tutti i giorni. Ma perché si è spaventato Maroni? Maroni si è spaventato perché qualcuno ha retweetato. Lei ci crede a questa storia che è stato un collaboratore a retweetare? Io credo sempre quello che dice il mio presidente. Ci mancherebbe altro. Però ho visto, sento una piccola risatina. Piccola titubanza. No, dico che non mi sento di mettere in dubbio minimamente. Cioè, io credo che alla fine. Probabilmente, io non lo so, io credo che non sia stato lui effettivamente, ma magari chi l'ha ritwittato del suo staff ha ritenuto che in ogni caso la notizia fosse degna di merito. Mi sembra di capire che anche altri l'hanno pensato, visto che non parlate d'altro ormai in questi tre giorni, vivo sostanzialmente. No, ma la sua posizione, poi, come dire, la Lega ha preso la sua ufficiale con il segretario, che ha detto: no, mai mio figlio di 10 anni devo immaginare che va a comprare una. Ma anch'io ho un figlio di 14, cosa significa? Cioè, cosa vuol dire? Ma non sono meno. Cioè, non ha paura per suo figlio come invece ha paura Salvini. Guardi, io ho paura per mio figlio già adesso. Che un genitore che oggi non ha paura per quello che succede al proprio figlio quando esce alla sera non esiste, se è un genitore vero. Quindi non è che. Però io sono abituato che non mi faccio la testa prima di romperla, no? Per cui lei dice: se Salvini sbaglia quando dice di avere paura che il figlio di 10 anni vada a comprare la droga al tabaccaio. Io dico Salvini sbaglia. Salvini fa il segretario della Lega ed il segretario è un soggetto che deve fare sintesi fra varie sensibilità. Probabilmente ha avuto la percezione, come credo che abbia avuto qua. Io con Salvini ho talmente buoni rapporti che abbiamo cenato insieme. No, ma lo so. Quindi le dico, abbiamo discusso ovviamente anche di questo. No, ma è giusto che lei dica, io su questa cosa la penso in maniera diversa da Salvini. E vado avanti. Però la penso in maniera diversa dalla posizione di Salvini. Ciò non toglie, ripeto, che alla fine sono assolutamente ben disposto ad accettare la linea che la Lega sceglierà. L'accetto, ma non. Però per suo figlio di 14 anni lei non teme che possa andare a comprare la marijuana dallo Stato? Anzi, vorrebbe che se proprio vuole fumare la marijuana, se proprio la vuole fumare, è meglio fumare. Se capitasse una disgrazia di quel tipo, preferisco che ci sia qualcuno che lo controlla, che sa cosa sta facendo, che magari mi sa anche riportare qualcosa in più rispetto all'anonimato selvaggio e a quello che viviamo tutti i giorni. Per cui per lei dove bisognerebbe vendere questa marijuana di Stato? Non lo so, anche al supermercato, al supermercato, che ne so, in farmacia. Ma guardi, non faccio più il legislatore, quindi non saprei. Vabbè, fa l'assessore, comunque fa l'assessore alla regione Lombardia. Magari, siccome volete l'autonomia, addirittura qualcuno l'indipendenza, magari è interessante sapere se in Lombardia lei vorrebbe la marijuana distribuita dallo Stato, ovviamente a pagamento. Nello Stato lombardo, in quel caso sì. Benissimo. Lombardo, certo. Nello Stato lombardo, in una Lombardia indipendente, ci potrebbe essere. La Lombardia è già uno Stato, Cruciani. La Lombardia è 10 milioni di abitanti, torno da Bruxelles. Il Belgio ha la metà di. Non lo so, guardi, lo vorrei io lo Stato della Lombardia. Abito a Milano e vorrei la Lombardia libera, figuriamoci. Cioè, sono diventato più indipendentista di lei, Fava. Bravo, non bravo. Si preoccupi. Questa mi sembra, molto più indipendentista di lei. Io sono diventato separatista. Di me non lo so, ma sicuramente è un'evoluzione positiva. Beh, comunque nella Lombardia e nel nord. Visto che anche Borghezio oggi si è adeguato al Lega Style, vede che sta cambiando tutto. Che ha detto Borghezio? Che ha fatto? Detto? Borghezio ovviamente sta con la segreteria, ci mancherebbe altro. Cioè sulla droga, dice lei? Ovvio. Borghezio, Marione non se l'è mai fatta le canne. Ma a proposito, Volevo dire, quando ci si avvicina ai periodi, Elettorali, dice lei, elettorali. È un tema spinoso. Che vi fa perdere voti, questo. Il richiamo è quello. Però no? Scusi, Fava. Come io non devo essere candidato da nessuna parte. Si può permettere di dire quello che vuole. Si vuole dire che molti leghisti la pensano come lei, ma non hanno il coraggio di dirlo, perché il segretario ha detto che no alla droga. No, io non credo che molti leghisti non abbiano. Io credo che purtroppo in questo paese, non solo in generale, per un problema culturale che c'è abbastanza diffuso, ormai noi siamo passati dal politicamente corretto come concezione al politicamente conveniente, no? Allora, ho appena ricevuto un messaggio di una elettrice del PD che si complimenta con me e dice: peccato che il mio partito, dove invece è iniziato un psicodramma su questa vicenda, assolutamente, peccato che nel mio partito, in realtà che pensavo essere il partito maggiormente della Lombardia, mi hanno risposto, il mio segretario mi ha risposto che hanno fatto dei sondaggi e su questo tema si perdono i voti. Ma non è vero, poi ma non è vero, a parte che nella segreteria c'è per esempio Pina Picerno che ha detto che deve essere a favore. Non se ne prendono e non se ne perdono di voti, non spostano niente. Senta, ma secondo lei si può anche coltivare a casa la marijuana? Lei che è assessore all'agricoltura, la farebbe coltivare in Lombardia la marijuana? Non ne ho la più pallida idea, bisognerebbe chiedere a qualcuno che se ne intende. Se lei è a favore della marijuana di Stato, non pensa che non ci sia niente di male a coltivare in Lombardia la marijuana a casa, o no? Io credo che da questo punto di vista sono un legalitario, sono uno che discute perché le leggi si cambiano. No, ma secondo lei andrebbe tolto la proibizione di coltivare marijuana a casa, o no? Sì. Guardi, scusi, mi perdoni. Nel momento in cui viene depenalizzato qualsiasi tipo di reato in termini da questo punto di vista, è quasi implicito. Cioè, qual è la differenza? Torno subito da lei. Allora, siamo qui 800 24 00 24 con Gianni Fava, che è assessore all'agricoltura della regione Lombardia, Lega Nord, che incredibilmente, dico io, ha riaperto la discussione in Italia, che non porterà a nulla, anche per i motivi che abbiamo detto prima, cioè il conformismo e, se vogliamo, anche forse calcoli elettorali, la discussione sulla legalizzazione della cannabis. Fava è, diciamo, all'interno della Lega, apparentemente nelle dichiarazioni, l'unico che si esprime insieme a Pini, un suo collega, Emiliano, è romagnolo o Emiliano Pini, amico? No, è romagnolo, per carità. Sa che potrebbe offendersi. Lo so, è romagnolo, sì, mi sono corretto subito. Anche lì sono due nazioni, le mie. Sì, per carità. Allora, Gianni Fava, assessore all'agricoltura della regione Lombardia, che dice di essere a favore della legalizzazione. Io però vorrei sapere, allora, per lei la Fini Giovanardi va eliminata, giusto? No, per me va superata, va modificata così com'è, inefficace, ha prodotto solo guai e ha prodotto anche discriminazione intollerabile. Qualche grammo di marijuana in tasca è esuberante in un paese dove ci sono fior di delinquenti che circolano per strada tutti i giorni liberamente e allegramente. Noi non ci rendiamo conto dei casini che ha combinato sta legge qua. Però Fava, lei si rende conto che rispetto ai leghisti che noi sentiamo in genere, queste sue posizioni sono o la gente non dice la verità quando viene a parlare, oppure sono originali, cioè sono diverse. Lei sembra un esponente. Ma io rivendico. Sembra quasi un esponente di Rifondazione Comunista quando dice queste cose. No, guardi. Cioè, non ci sono dubbi da quel punto di vista. Io rivendico la mia originalità, ok? L'ho sempre fatto, ma la cosa che mi stupisce in tutta questa storia è che si metta i miei panni. Uno ripete la stessa cosa per 30 anni, e per 30 anni non lo caga nessuno. A un certo punto, un giorno, scoppia un casino del genere. Allora il problema è quello che ho detto io, o il problema è che probabilmente il dibattito è latente, gira e la gente in realtà di questo tema voleva parlarne, questo è il punto. Però allora mi dica la verità, se, la se lei vuole togliere, le vuole depenalizzare l'uso delle droghe leggere, la conseguenza è che uno a casa sua, mettiamo in Lombardia, secondo l'assessore all'agricoltura di questa regione, può tranquillamente, potrà un giorno coltivarsi la sua piantina di marijuana. Adesso no. Se cambierà, se cambiasse la legge, non vedo preclusione. Ma e dunque lei vorrebbe, però lei vorrebbe, ma non c'è niente di male. Io vorrei, per esempio, che la gente, io no, perché non fumo, però terrazza, bellissimo. Cioè, ma non mi faccio dire che il mio desiderio è di ma no, desiderio un agricoltore, che non è così, non è, e lo sa benissimo che così non è. Io insisto sul punto, guardi, l'elemento della cannabis è un elemento occidentale in questo dibattito all'interno della Lega, nel senso che qui si scontrano due scuole di pensiero, fra chi sostiene che non può esistere un partito dogmatico che abbia una valenza territoriale come sottoscritto e chi sostiene al contrario che invece il partito debba sostanzialmente normare tutto. Ma i giovani della Lega stanno con lei? Che ne so io. L'hanno scritto magari, no? Cioè, mi sembra che qualcuno sì, anzi devo dire di aver avuto, anche qualcuno no, anche nello stesso modo. Cioè, io ho il sospetto che se potesse parlare Renzone Bossi, il famoso Trota, starebbe con lei. Non so perché, se potesse parlare. Non ne ho la più valida idea, perché io non ho mai avuto particolari frequentazioni e non ho la confidenza di poterglielo dire, non lo sento. Ecco. Ma lei personalmente se l'è mai fatto una canna? Ma guardi, io ormai ho finito di fumare anche la fodera del mio divano a casa, non fumo nemmeno sigarette sinceramente. Beh, però una cannetta se l'è fatta, su. Ma vede che il problema non esiste. Cioè, voi avete, sa cos'è, qual è il problema di questa discussione? Che, come in tutte le discussioni in Italia, sembra sempre che a prendere posizioni debba essere un soggetto interessato, no? Cioè uno... Ma no, ma mica è interessato, ho detto, se la sarà fatta qualche canna di... Io chiedo, lei è mai andato a puttane? Ma io glielo dico, sì, sono andato qualche volta, io lo dico. Io no. Lei no, va bene, d'accordo. Io gliel'avrei chiesto però, cioè, non è quel punto. Ma no, ma non perché è interessato, lei se la sarà fatta da giovane o anche adesso qualche canna. Guardi, io fumo anche l'ulivo davanti a casa mia. Dunque fumo ogni tanto qualche canna se la fa? Qualsiasi cosa, non qualche canna, qualsiasi cosa, il tubo del, ma adesso, dello scappamento dell'auto, io aspiro a qualsiasi cosa, sono di bocca buona. Anche su un po' sovrappeso, le dico la verità. No, però diciamo la verità, lei se l'è fatta qualche canna, se la fa qualche canna, no, ragionando seriamente. È irrilevante. No, ma com'è irrilevante? È rilevantissimo, è interessante invece. Perché è rilevante? Ma no, ma scusi, perché è rilevante, perché sarebbe l'unico argomento, in cui finirebbe la mia intervista stasera. Ma no, ma allora lei però ci lascia il sospetto, sospetto che lei in realtà intenda che... Mi piace, è un mistero, un po' come sa. Scusi, no? Allora dica di no, non mi sono mai fatto una canna in vita mia e la chiudiamo qua. Io dico che non rispondo perché lo ritengo irrilevante. Lo ritiene irrilevante, anch'io lo ritengo irrilevante, devo dire la verità. Però è irrilevante, ma io dovrei avere un'opinione sulla base di un interesse. No, interesse, perché interesse? È la cosa più italiana. No, ma ha ragione, non c'è un interesse. Così. Tant'è che io non mi sono mai fatto. Io sono a favore della legalizzazione, non mi sono mai fatto una canna. Io sono uno di 45 anni che ha due figli, che ha una vita comune, ecco, per definirle normale. E dunque qualche cannetto ogni tanto scappa? Che ha tutti i vizi del mondo, perché mangia, beve, sai, sono, e che si pone il problema di dire: ma cosa succede al resto del mondo? E non ha una risposta. Ma suo figlio, quanti anni ha? Suo figlio più grande, 14, ha detto. Le ha confessato qualche volta di essersi fatto una canna, no? No, assolutamente. E se la facesse sarebbe una tragedia, no? Ma insomma, mi dispiacerebbe un po', sinceramente, però le tragedie sono altre cose. Cioè, se le sto dicendo che non lo considero un elemento tragico nel dibattito, significa che le tragedie sono altre cose. Senta, le tragedie oggi sono la mancanza del lavoro, le tragedie sono la disperazione sociale, quelle sono tragedie. Senta, la voterebbe la proposta di Manconi che ha presentato alla Camera, se fosse alla Camera, lei? Non l'ho vista, però non posso dirlo, però se ricalca sostanzialmente quello che sto dicendo, ovviamente. Beh, sì, certo. Assolutamente. Ma sui temi etici, voglio dire, io quando facevo il parlamentare, cioè fino a qualche mese fa, sui temi etici, il mio voto a volte si è anche differenziato. Io, quando ci fu la famosa vicenda Englaro, io non mi ho votato, cioè, ognuno poi è libero di fare quello che vuole. No, ma certo. Senta, le posso chiedere un parere su Virzì? Le posso chiedere un parere su Virzì alla Brianza? Cosa pensa di Virzì? Che è un cialtrone, che è uno che prende finanziamenti pubblici e sparla dei posti dove si produce. Ha sentito Virzì il regista, quello del film, sa che c'è questa polemica, forse non è a conoscenza. No, ho visto che c'è una polemica, ma francamente non mi appassionava l'argomento, non l'ho lavorata, cioè ormai i registi, dai, fanno, cioè, fanno il loro mestiere, che ne so, io non so di cosa si tratta. No, perché in un'intervista, a Repubblica ha parlato della Brianza come di un posto, come di un posto terribile. Un posto, aspetta, non lo so, guarda, io abito in provincia di Mantova, vicino a Parma, per la precisione, sul Po, lontano dalla Brianza. Paesaggio gelido, ostile e minaccioso. Vabbè, poi ha fatto varie considerazioni sul posto terribile. Non so perché lui dica che la Brianza è un posto terribile. È un posto molto urbanizzato, è un posto dove manca un po' la campagna. Può anche darsi che non abbia i crismi del luogo. Senta, e riviste americane che hanno messo la Chienghe tra i 100 pensatori più influenti? Si può dire qualsiasi cosa, che il pensiero della Chienghe sia influente, non c'è dubbio. Guardi, la Chienghe influenza molto il nostro elettorato, tutte le volte che parla noi aumentiamo i voti, quindi non c'è problema. Questa è una teoria. Sono d'accordo anch'io. Bene, grazie Fava, presto. La trovo abbastanza influente, grazie, presto. Buonasera, ciao come zanzare queste ombre. Antonella da Brescia, buonasera. Buonasera Cristiani. Dica. Buonasera, volevo innanzitutto salutarla, augurarle buon anno e dirle che per quanto riguarda allora la vivisezione sono d'accordo completamente con lei. Io mi sono appena mangiata una cotoletta buonissima di manzo. Vabbè, quello non c'entra, e però credo non è che comunque il cane, cioè senza mangiare il cane, però comunque l'animale viene dopo la persona e mi sa che qui ci stiamo delirando molto molto su questo argomento. Per gli ascoltatori che hanno chiamato, quello che ho sentito. Comunque il mio intervento si riferiva invece a quel teatrino che si è aperto questa mattina riguardo dell'aumento nello scatto di anzianità dato agli insegnanti l'anno scorso e poi tolto improvvisamente, non si sa in che modo, per e dopo di nuovo ridato. Ecco, io dico che niente, siamo un paese così, senza nessuna credibilità, senza nessun tipo di progettazione, di progettualità futura credibile. No, ma la cosa incredibile è che i due ministri si rimpallano responsabilità, con Saccomanni che dice alla carrozza che è il ministro dell'istruzione che lo sapeva, lei che dice è stato tutto deciso all'insaputa dei ministri, cioè una roba ridicola, cioè i ministri spesso non sanno niente, dice la carrozza. Ma quindi cosa vuol dire? Ma di che stiamo parlando? I ministri devono sapere, se non sanno è colpa loro, cioè se non sanno di questo pasticcio, del fatto che questi devono restituire i soldi per tutto il 2014 a rate per gli anni precedenti degli aumenti che ci sono stati, è colpa loro, non è che può essere colpa dei burocrati, magari sarà anche colpa dei burocrati. Ma non è colpa loro, è sempre colpa dei ministri. No, noi non c'entriamo l'ingenuità della carrozza. Vabbè, allora? No, niente, io dico, come insegnante, come docente, è stato l'ennesimo così, cioè colpo a una istituzione che è la scuola, che ormai non ha più nessun tipo di credibilità, ma lei è insegnante, meno di riconoscimento a livello sociale ormai. Vabbè, ma questo è un altro discorso, proprio. Ma sì, ma questo lei ha perfettamente ragione, però adesso il suo ruolo mi sembra che sia importante per la società, perché comunque formiamo i ragazzi. Vabbè, ma questo è evidente. Daniela da Roma. Sì. Allora? Buonasera. Dica. Volevo intervenire a proposito della sperimentazione sugli animali. Sì. Io per 15 anni ho fatto sperimentazione su sistemi cellulari. Sì. A parte, volevo ricordare a proposito del suo atteggiamento nei confronti dei topi. I topi non hanno mai portato alla distruzione di questo pianeta come stiamo facendo noi. Sì. Né lo stanno facendo i cani, né nei gatti, nelle scimmie. E chi ha detto che siamo animale. E chi ha detto che i cani, i gatti, le scimmie portano alla distruzione? Lei sta assumendo un atteggiamento predatorio. Atteggiamento predatorio, sì. E estremista. Lei ha di solito contesta gli atteggiamenti estremisti, ma lo sta assumendo. Ma figuriamoci. Io ho utilizzato sistemi cellulari presso l'Università di Tor Vergata. Sì. E sperimentavo chemioterapie su cellule tumorali prelevate da esseri umani, ma non in maniera ovviamente Vabbè, allora? E quindi le volevo dire che è possibile fare una sperimentazione che non utilizzi gli animali. Volevo anche ricordare che la sperimentazione sugli animali ha portato a una quantità di migliaia di individui che hanno riportato focomedia. Vabbè, lei è contraria alla sperimentazione sugli animali. Ricordo la focomedia. Vabbè, lei è contraria alla sperimentazione sugli animali. Così? No, non sono contraria alla sperimentazione sugli animali. Esistono sistemi alternativi. Esistono sistemi alternativi, benissimo. Non si capisce perché non si possano utilizzare. Ma chi ha detto che non si possono utilizzare? Sì. Sto dicendo che potendoli utilizzare si può evitare di utilizzare, visto che soffrono il dolore. Va bene, Daniele, ho capito. Chiara da Udine. Sì, buonasera. Anch'io chiamavo per sostenere come la vivisezione sia oggi chiara come sia una falsa scienza. Va bene, poi? E che quindi gli animalisti, quelli veri, non devono essere ipocriti e quindi continuare nel loro pensiero contro questa Caterina fantomatica, vera malata, falsa malata. Ma come vera malata o falsa malata? È chiaramente una vera malata. Che delirio. Ma strana questa sua uscita. Strana, tutto falso, strana, tutto un complotto. Dal suo salotto di casa si permette di prendere il telefono, chiamare l'800 24 00 24, lei che è una persona che ha la fortuna, e glielo auguro, di essere sana, e di infangare una persona che è su un letto d'ospedale e lotta per la vita per dire questa stronzata? Ma si deve vergognare. Scusi, è la malata Giovanna invece? E tutti quei malati che invece sono contrari alla sperimentazione animale? Quelli contrari alla sperimentazione animale faranno non si cureranno con quei farmaci lì, ma c'è il diritto di curare, io ho diritto, se sono malato, di curarmi con farmaci testati sugli animali. Ma stiamo scherzando? E poi sostiene di essere vegetariana e sul profilo Facebook sostiene, ha foto, ma come con si animali? Permette? E allora? Ma come si è una follia. Allora? Ma lei come la vede questa Caterina? Come la vede come personaggio? Fantomatica, ha detto. È finta? Io un mio pensiero penso che sia supportata dalle lobby farmaceutiche. Oh, inventata dalle lobby farmaceutiche. Inventata dalle lobby farmaceutiche. Dai, su, Chiara, dai. Inventata. Vabbè, poi che vuole aggiungere poi? No, niente, questo. Ma il cacciatore di prima l'ha sentito? Sì, beh, vergognoso. Vergognoso. Ma era divertente. Si ritiene che la... No, mi scusi, parlare di uccisione di animali e di godimento nell'uccisione di animali non è assolutamente divertente. Ma era divertente, lui ha detto era come un orgasmo ammazzare un cinghiale, beh, insomma, alla fine era divertente, su. Beh, questo dà lo spessore della persona che è intervenuta. Lei si ritiene che va bene solo perché è legale, rimanga anche tarpassato. Perché comunque è legale. Ma scusi, cacciatore, lei che cosa... non è simpatico, ma pensi alle sue di cose che ha detto invece, che ha messo in dubbio la malattia di quella scusi, ragazza. Lei che cosa augura alla Caterina, quella ragazza che era malata e ha fatto quella denuncia contro gli io, animalisti? Io come animalista non sono ipocrita e non voglio che milioni di animali vengano torturati ogni giorno. E allora a quella ragazza cosa augura? Niente, che la natura faccia il suo corso. Cioè? La natura, come si dice, Dio vede e provvede. Cioè, lei augura la morte? Non ho detto questo. E dunque, cosa ha detto? Perché è troppo cioè, il comodo. Cioè, non si può fermare il decorso, non si può fermare il decorso con la medicina... Della natura. Con la medicina, con la sperimentazione degli animali, non ho capito. No, perché è risultato solo che gli animalisti augurano la morte a questa persona, che gli animalisti sono degli estremisti. No, gli animalisti portano avanti... un'opinione così come scandalosa. Ma non è un'opinione, lei ha detto la natura deve fare il suo corso, lei augura la morte a quella ragazza in sostanza. Ma mi scusi, ma se lui, allora, a parte che se la sperimentazione animale è stata tolta sui cosmetici, mi deve spiegare qual è l'utilità. Vabbè, ma lei che cosa si augura per questa ragazza? Per questa ragazza cosa si augura lei? Niente. Cioè, dopo che ha detto che vuole la sperimentazione sugli animali, che cosa si augura di questa ragazza? Non le dico quello che lei vuole sentire. No, dire, non le dice quello che lei pensa in realtà. Per poi, anziché celare un discorso che deve essere portato alla ribalta, fatto fare gli animalisti come nazisti estremisti. Mi scusi signora, ma se fosse dimostrato che sacrificando una mucca si salva un uomo, lei accetterebbe questa cosa o no? Se fosse dimostrato che non è così. Se fosse dimostrato che sacrificando una mucca, no? Io non la sacrificherei. Lei non la sacrificherebbe. Si salva un uomo, no? Una persona. Pubblicità, abbiamo capito. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Ehi, ciao ragazzi, vi voglio bene, ciao. Mi ha beccato, mi ha beccato. Caro Emilio, ci vuoi bene, però Beh, lasciamo perdere, dai. Ieri ci hai detto delle cose, poi... Totti ha avuto un culo così, dice Fede. A parte che non so se ha avuto un culo così, perché fare il vice di Berlusconi, il vicepresidente o il coordinatore di Forza Italia, non so se significa avere un culo così. Comunque, secondo lui ha avuto un culo così. Totti è bravo, Totti è una persona, tanto non ci sente nessuno, diciamo che ha avuto un bel culo, no, scusami, perché scusa, dirige due telegiornali, è anche un esponente politico, c'è una moglie intelligente, simpatica, abbiamo lavorato insieme e con questo mi sono conquistato qualche bonus, no, che dici, no? Ho detto bene, devo ripetere. Esatto. Sono invidioso di lui. Se ti devo dire la verità, sono invidioso, certo, ci mancherebbe altro, e chi non lo sarebbe? Beh, rode il culo, insomma, sì, diciamo che mi rode il culo da morire, sì, sì, sì, ma certo, scusa, sì, perché a te ti roderebbe il culo. Ma di che cosa? Di rode il culo di che cosa? No, che vorrebbe quello... essere al suo posto, no? Ma al suo posto dove? Dai. Al posto di Totti vorrebbe essere. Ma sì. Cioè vorrebbe fare il numero due di Forza Italia, di Berlusconi. Ma quello è diverso, quello è più giovane. Beh, poi... certo. Fatto il suo tempo, comunque si è preso come avvocato Paniz. Grazie. Mitico Paniz, che secondo lui non vuole una lira. Poi questo bisognerà verificarlo con il dottore Paniz, perché adesso io, per carità, ho grande stima di Paniz, però adesso lavorare gratis per un avvocato non è mai buono, Beh, ma c'è un sacco di soldi Paniz, dai. Ma che un sacco di soldi? No, è un professionista affermatissimo, magari siccome un amico gli fa la causa gratis. Fede dice che Paniz non vuole una lira. È il primo avvocato che lavora per amicizia. Non vuole una lira, non è che non me l'ha chiesto, non li vuole, esatto, perché vuole bene a me e lo ringrazio molto. Raffaele da Brindisi. Raffaele, sì, buonasera, io volevo fare una domanda a Parenzo, siccome si era un po' stifato del fatto che lei ha mangiato carne di cane, dicendo che è un animale domestico il cane. Anche la gallina, il maglialino, quando si cresceva nelle fattorie. Bravo, bravo, basta. Vabbè, è un po' diverso, però. Su. Ma non è diverso, basta. Ma infatti con io il maiale non lo mangio, ad esempio. Però. La seconda riflessione che mi ha fatto pensare è quel signore lì, l'animalista, presidente degli animalisti. Quanti soldi girano dietro a questa associazione? E gli volevo chiedere una cosa. Ha detto che Hitler ha fatto bene, che il 1933. Non si capisce niente, dai. Luigi da Fermo. Sì, buonasera. Dimmi. Allora, io volevo dire una cosa in merito agli interventi di questi di molti finti bigotti e fanatici degli animalisti. Vorrei porre questa domanda. In caso di vita o morte, vita sarebbe la cura con un farmaco o un principio attivo ottenuto attraverso la sperimentazione. O il nulla uguale morte, cosa risponderebbero? Questo? Vabbè, questo glielo chiederemo, ma comunque loro dicono che è sbagliato porre questa alternativa. Lei cosa farebbe, per esempio, Luigi? Io allevo animali, quindi amo il mondo animale, però considerando la scienza che va avanti e alcuni farmaci ottenuti attraverso una sana sperimentazione eccetera, che comporta il sacrificio di qualche animale, giustamente è qualcosa che va avanti, quindi è una vita che si potrebbe salvare, una malattia che si può curare, che senza questo sicuramente non ci sarebbe questa possibilità, secondo me. Va bene, grazie. Opinione. Boris da Verona, buonasera. Buonasera, Cruciani. Allora, io trovo tutto questo dibattito, da parte di questi ecoambientalisti da salotto, tutta questa gente che il mondo animale, il mondo della natura sembra non conoscerlo, piuttosto ridicolo. Tutta questa gente al massimo ha visto un cane, il proprio cane, il coniglietto della figlia, è gente che la natura, la caccia, la pesca, tutte queste attività che hanno a che fare realmente col mondo animale, loro non la conoscono. Io vorrei sapere quanti di quelli che criticano la caccia sono mai andati a fare un censimento dei cervi, sono mai andati a capire perché una popolazione di, ad esempio, camosci è affetta da una o un'altra malattia e va abbattuto un certo numero di camosci per preservare la specie. Tutta questa gente non capisce che la cosa più importante nel mondo animale è la specie nella sua totalità, non il singolo individuo, il singolo animale. E gli unici che sono veramente interessati dei nostri boschi, dei nostri fiumi, siamo noi pescatori oppure i cacciatori. Ma lei è un cacciatore? Lei è un cacciatore? Io sono un pescatore. Io sono un pescatore, ovviamente. Anche lì c'è una valutazione differente, viene fatta ogni volta tra i cacciatori e i pescatori. Come se i pescatori... Perché i pescatori possono fare il cosiddetto catch and release, ovvero possiamo rilasciare il pesce, cosa che facciamo molto spesso. Io oggi ero a pesca in Austria, ho preso alcuni pesci che ho rilasciato, mi sono fatto 350 km in due giorni per andare a pescare in Austria, ho catturato dei pesci e li ho rilasciati tutti indenni, e per questo abbiamo una un'accettazione diversa, e anche perché il pesce, diciamocelo, è meno fa meno Bambi, cioè c'è la sindrome di Bambi. Appunto, che... sì, la sindrome di Bambi. Per cui Bambi va bene. Io avevo un carissimo amico veterinario che mi diceva: tutti questi ambientalisti sono ambientalisti a parole, perché se trovano un uccellino morente sotto casa me lo portano, se trovano un topo morente investito da una macchina, quello può rimanere lì a morire. E questo è verissimo. No, ma è così, cioè, è così. Grazie Boris. Grazie. Prego, a presto. Amici, non c'è solamente Antonio Razzi, non c'è solamente Dennis Rodman, il cestista americano. Ci sono tanti ammiratori della Corea del Nord, anche in Italia. Ne abbiamo scovato uno, non poteva essere che il nostro amico Marco Rizzo. Buonasera. Buonasera. Come andiamo? Bene, stiamo preparando il nostro congresso nazionale che ci sarà la prossima settimana. Congresso nazionale, dove? Dai, congresso, su. Cioè, dove? Ma dove? Comunisti, Sinistra Popolare, Partito Comunista, no? Tornerà il nome Partito Comunista. Però, scusi Rizzo, inviterete anche rappresentanti della Corea del Nord? Come del Venezuela, di Cuba, di tutti gli stati canaglia. Ma ci saranno anche coreani del Nord, veramente? Presumibilmente ci saranno invitati di varie... Se li fanno uscire dal paese. Adesso non so se fisicamente o manderanno un messaggio. I classici messaggi comunisti europei. I classici messaggi che vengono mandati. Ce lo legga, poi saluto, mi raccomando. Il saluto dei compagni della Corea del Nord, no? Lei li considera. Può fare folklore, ma è un paese indipendente dall'imperialismo, come la Siria. Vai, indipendente dall'imperialismo. Su Rizzo, faccia la persona seria pure lei, dai. Seriamente le dico questo, poi che possa far folklore in questo pensiero unico. Capito? Cioè, lei mi sta dicendo che la questione della Corea, per esempio. Mi dica. I cani che avrebbero mangiato, quella è una bufala. Ma credo che siano gli stessi della fidanzata che era stata trucidata. C'era una bufala. Apparsa in pubblico. Ma io credo che ci siano delle cose vere. Quell'ufficiale che era il vicepresidente che è stato condannato a morte, quello credo sia vero, lo hanno detto proprio loro. Tutto il resto sia un po' di condimento, ecco. Sì, però non è proprio... I cani... Non è un bel ambientino quello lì. Uccisa, era divertente perché la fidanzata è stata uccisa e poi è riapparsa. Però le ripeto. Vabbè, ma scusa, voglio dire, ma lei vivrebbe in Corea del Nord, Rizzo? Ma io sono italiano. Ma che lasci perdere l'idea? Ma lei vivrebbe in Corea del Nord? Ma lei vivrebbe in Alaska, cosa vuol dire? No, ma che c'entra l'Alaska? Su, lei se dovesse scegliere la Corea del Nord o la Corea del Sud? Io scelgo l'Italia. Vabbè, d'accordo. L'Italia con un regime totalmente diverso da questo. Scegliamo tra Corea del Nord e Corea del Sud, lei dove andrebbe? Probabilmente in Corea del Nord. Ma no, ma come? Perché non è possibile, scusi. Ma se fossi un coreano operaio, se fossi un coreano miliardario, starei in Corea del Sud. Cosa c'è? Ma come? Ho capito. Come? Infatti molti scappano però, sa? Come scappano da Cuba? Anche al contrario, cosa vuol dire? Cioè... C'è lei tra Corea ma del mi Sud, risulta che dall'America non è che vanno verso Cuba, mi risulta il contrario, amico mio. Da Haiti vanno verso Cuba, mi risulta. No, adesso non sto scherzando. Da Haiti vanno verso Cuba, vengono accolti, rifocillati e rispediti ad Haiti. Però scusi, fa piacere che c'è una cosa di persone in giro così. Comunque, i contesti geopolitici vanno fatti tra Italia e Francia, Italia e Germania. Però scusi Rizzo, è vero che e quando si parla di Cuba, bisogna parlare Cuba. Vabbè. L'Honduras, il Salvador. Però Rizzo, è vero o no che lo zio la popolazione preferirebbe stare a Cuba? Ma è vero o no che lo zio di Kim Jong-un, come diavolo si chiama? Ma che ne so, questa roba qua sono cose. L'hanno ammazzato. Ma l'hanno ammazzato. No, lo zio è stato ammazzato, sì. Quello credo sia l'unica vera, perché l'hanno detto loro. Allora? Tutto il resto viene detto ma da non altri. È una cosa non così. È carino però. Non è simpatico. Ma io sono contro la pena di morte. Ma però... non vuol dire che quello che accade, scusi. Ma che è successo secondo lei allo zio? Ma che è successo allo zio secondo lei? L'avranno ammazzato, se hanno detto l'hanno ammazzato, l'hanno ammazzato. Però le spiego il mio parere, modesto. No, ma lo zio che ha tentato di fare qualche cosa che non andava fatto. Io capisco che voi avete la vostra trasmissione, ma fatemi dire almeno il mio pensiero. Un paese che non si assoggetta al pensiero unico dell'imperialismo mondiale è un paese indipendente. Poi non vuol dire che io sono d'accordo, io per quello poco che rappresento, ma non si può dire. Siamo d'accordo integralmente con tutto quello che avviene lì. Io dico, un paese che è indipendente è meglio che sia un paese che esista rispetto a un paese che sia... Ma meglio un paese che non è indipendente, dove la gente è libera, altro, io voglio l'invasione della Corea del Nord. Bisogna fare l'invasione della Corea del Nord, l'invasione. Quanti milioni di persone muoiono di fame? Il capitalismo è la sciagura più grande di questo pianeta. Ma quando? Bisogna fare l'invasione l'invasione della Corea del Nord. Quando avremo invaso la Corea del Nord col nostro sistema di mercato, saranno peggio di come stanno. Ma non è vero per niente, ma non è così. Le assicuro che i paesi del... Beh, ma lo zio cosa aveva fatto? Il comunismo stanno molto peggio che non prima. Era meglio il comunismo. Allora, lo zio che aveva fatto? Lo zio che aveva fatto? Non lo so, credo che da quello che ho capito... Mi pare che, tra virgolette, tentasse di fare una sorta di colpo di Stato. Ah, dunque è giusto che l'abbiano condannato? Ma le leggi di uno Stato andranno rispettate. Io non Ma mi può spiegare una cosa? Ma perché in tutti questi paesi che non parliamo dell'Italia anche? Ma perché è incredibile. Ma perché voi dovete fare la trasmissione, io sono... Se rispondo alla vostra telefonata, sto al gioco. Ma mi spieghi solo questo, ma perché tutti i paesi che lei chiama cosiddetti indipendenti uccidono gli oppositori, guarda caso? Ma perché l'Arabia Saudita è un paese dipendente, tagliano le mani, uccidono le persone. Ma infatti nessuno dice che quello è un paese civile. Ma infatti nessuno dice che è un paese modello. Citato l'Arabia Saudita, ma potremmo parlare Arizzo, aspetti un attimo che abbiamo quella cosa orribile che per lei che è la borsa, il capitalismo, sa? Non me moleste moschito. Non me moleste moschito. Intanto vi benedico e vi esorcizzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Non me moleste moschito. Giuseppe da Torino, buonasera. Sì, buonasera dottor Cruciani. Dica. Devo fare una doverosa prestazione che non c'entra niente con quello che volevo intervenire. Comunque io volevo dire al signor Pannella, per i Marò, di liberare i detenuti in India. Che loro sono i Marò. Un attimo. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Parla italiano? Ah, no, italiano. No, italiano? No. No. Kim Jong-im? Pronto? Pronto? Qui l'Associazione Internazionale dei Diritti Umani. Pronto, mi sente? Hello? Mrs.? Hello? Giuseppe da Torino. Giuseppe, allora? Marò detenuti in India, se il signor Pannella si interessasse un po' di più. Ma che ci frega adesso? Vabbè, Pannella fa quello che vuole, se si vuole interessare a Marò, c'è il ministro degli esteri, là, Bonino, che è radicale. Fatto la passeggiata per i detenuti. E volevo dirle che c'era un po' di tempo fa, 15 giorni fa, su Facebook, una pagina dove c'era un link che praticamente era di una fonte di un giornale locale, dove diceva che praticamente un'azienda, una multinazionale cinese specializzata in rifornimenti alimentari, aveva chiesto alla comunità europea di approvare per fare in maniera che si integrassero anche in Europa la legge che si potesse mangiare la carne di cane anche nei supermercati. Ma dove? E questa legge è passata ed infatti è stata pubblicata. Adesso qualcuno se non ho capito, secondo lei si potrà mangiare carne di cane anche in Europa? Ma così è stato detto. Ma non è così. Qualsiasi motore di ricerca, se la trovate, la leggete. È stata approvata questa azienda, ha chiesto l'autorizzazione a vendere la carne di cane nei supermercati. È stata approvata. Ma non credo proprio che sia così. Non credo. Ma qualsiasi motore di ricerca. Ma che c'entra il motore di ricerca? Bisogna vedere se poi questa. È una fonte di un giornale. Ma non penso che l'Europa abbia ammesso la vendita della carne di cano nel suo territorio. Il caso vuole che 10 giorni fa la Guardia di Finanza qui a Torino ha sequestrato in un ristorante cinese 2000 gatti. 2000 erano gatti. Lì. Ancora con questa storia dei gatti. Vabbè, Tony da Piacenza, buonasera. Magari Tony. Qualche voltino primavera sarà andato a finire, non lo so. Tony da Piacenza. Buonasera, dottor Cruciani. Allora? Io volevo farle una domanda, se è possibile. Sì, ma lei dove sta? In strada? Sì, Piacenza. Ma col camion? Col camion, io sono un assiduo ascoltatore suo. E siamo al top, lei... Tony, da dove chiamo? Dunque, da Piacenza, però non mi pare proprio piacentino lei, eh? No, no, quale piacentino? Io sono di origine pugliese, stabilizzato a Torino. Sì, allora... Allora, io volevo dirle una cosa. Ma sta politica che gira lei... ai discorsi che tutte quelle persone che chiamano e che poi alla fine vengono sempre al nodo e dicono quello che dice lei, da dove la prende questa politica? Perché io la stessa politica la vorrei attivare con quelle persone che lavoro. Sì. Perché quando arrivo che vado a chiedere 10 lire d'aumento, mi dice vai via. Sì. Allora, ho detto io dal dottor Cruciani, mi devo spiegare come cazzo va, alla fine tutti dicono quello che dici te. Ma cosa chi? Ma chi? Tu? Come? Perché? Ma di che sta parlando? Tutti i spettatori che fanno i duri, e poi alla fine si manziscano. Lei ha un modo di fare così bello che di reagire come li vuole lei, alla fine dicono tutto quello che dice a parte lei. Che non è, a parte che non è così, caro Tony, e comunque... No, io la vedo così. Comunque sta gente che è animalista, dottor Cruciani, mi dica, è vero che bisogna portare rispetto agli animali, però che addirittura potrebbero fregarsi, non potrebbero augurare la morte all'umano per un cane, un gatto, un... È assurdo, è esagerato quella figura di prima. Se lei scusi un attimo, se lei dovesse scegliere, no, diciamo sì. Dai. Sì. Vabbè, Tony, ci sentiamo, a presto. Ok, ciao Cruciani. Ciao, tantissime cose, ciao. Buon lavoro. Ciao. Allora, volevo dire a Rizzo che in realtà lui è come Razzi, glielo dico subito, lei è come Razzi, almeno Razzi fa qualcosa, cerca di portare la pace in Corea del Nord. Rizzo, non voglio offenderla, certo, però ognuno è uguale all'altro nell'impegno che profonde, certo. Si tratta di partire da idee un po' diverse. Vabbè, ho capito, però quello dice che la Corea del Nord. Ma io ho rispetto per tutte le persone che. Razzi dice che la Corea del Nord è come la Svizzera, tutto funziona alla perfezione. Non è un caso che Razzi è stato usato, ad esempio, in questi anni, questi ultimi anni, Razzi, Scilipoti, per far vedere cos'era la politica italiana. Lo capisco, ma fa parte, secondo me, addirittura di un piano per dimostrare che la politica non deve contare più niente, deve contare la grande economia. Vabbè, questo è un altro discorso, su. Beh, ma cosa le piace serio, della Corea? Bisognerebbe... Al di là del fatto che è un paese indipendente, della Corea del Nord, cosa le piace, caro Rizzo? Guardi, della Corea del Nord mi piace il fatto che non prendono gli ordini dagli americani. Ma non è che basta solo quello, non è che uno ammazza una persona e dice... No... Io capisco, allora intanto stiamo parlando di un continente, quello asiatico, che conosciamo tutti molto poco. Vabbè, ho capito, però... Bisognerebbe... ma detto questo, dico il fatto che siano indipendenti... Ma non c'è la dittatura, secondo lei? Non c'è la dittatura o no? Beh, certamente c'è un regime totalitario. . Ma non è che perché in Europa non c'è la dittatura dell'Unione Europea. Vabbè, ho capito, so, ma sono vera. Io non faccio più il parlamentare europeo, quindi non sono in grado di rispondere a quel telespettatore, a quel radioascoltatore a parlare dei cani. Però so per certo che una delle ultime direttive che fece l'Unione Europea quando ero io al Parlamento Europeo era quella sugli oli deacidificati, cioè consentire per colpire alcune ma non è la aree stessa geografiche cosa, tipo l'Italia, di avere degli acidi, degli oli con acidi molto forti e quindi di fatto di vendere dell'olio marcio, consentire alle multinazionali, chiaramente l'olio italiano da questo punto di vista degli agricoltori italiani. Ma non è la stessa cosa, Rizzo. No, certo che non è la stessa cosa, è una cosa un po' più raffinata, ma è una porcheria abbastanza simile. Va bene, grazie, a presto Rizzo, a presto. Prego, presto. Arrivederci a voi, ciao, grazie. Ciao. Intanto è attesa ore la nomina di Giovanni Toti, così ci riferiscono fonti segretissime di Giovanni Toti a vice coordinatore di Forza Italia, vice coordinatore per l'organizzazione, ma che ne so, G4 andrà, Fede, forse andrà a Fede. Grande ritorno. Chiamatemi il professore, voglio divertire un attimo il professore che è ormai diventato proibizionista, il professore. Chiamatemi il professore al volo. Giovanni da Salerno. Che è un bel ambiente. No, anche un bel ambiente. Di maiali. Degradato, sì, cioè. Giovanni da Salerno. Pronto ragazzi, buonasera. Ciao caro. Ciao, ma io non riesco a capacitarmi. Che razza di paese ipocrita è diventato l'Italia? Perché? Cioè voglio dire, si toglie il porcellino da latte da sotto a quella povera crista della madre e lo si mette su un letto di verdurine e lo si arrostisce, quando lui sarebbe volentieri sul letto di paglia. Poi Cruciani mangia il cane, non va bene. Io questa cosa non l'ho capito, perché il cane no e il povero porcellino da latte sì? a Peppino, quel povero Cristo di Peppino Bigazzi, gli hanno fatto l'ostracismo dalla Rai, l'hanno cacciato perché che non me lo ricordo, me lo ricordo benissimo, certo. Hai capito? Poi io voglio dire, ritorna il Rai Marrazzo che è stato che tranza. A me sta benissimo, non ci trovo nulla di strano. Ma adesso basta con Marrazzo, su. Ancora. No, ho capito, però povero Cristo di Peppino Bigazzi. Un attimo, perché ha mangiato il gatto. Non è, non cioè, guarda. Pronto? Professore? Chi è? Cruciani, come stai? Ciao. Bene, tu? Bene, non c'è male. Parenzo, ti passo. Ciao, un minuto. Ciao professore. Come ciao. Stai? Già. Bene, bene, tutto bene. Dove ti dove trovi? Sei? In studio? Sì, in studio, sì. Beh, sempre sul sempre pezzo, a lavorare, sempre a fare a combattere. Sempre a macinare soldi. Allora, però, caro professore, ho letto una cosa interessantissima che hai detto su questo dibattito che riguarda la legalizzazione della droga, no? Hai visto che c'è. Tu sei addirittura dici che bisogna rispolverare il proibizionismo. Sì, sì, secondo me sì. Secondo come me. Sì. Ma come hai abbandonato le tue idee radicali? Scusami. Non c'è. Come? Hai abbandonato le tue idee quando io sono radicale. No, sono un radicale, ma per quello che riguarda il problema delle droghe, assolutamente proibizionista. Sempre, proibizionista. Assolutamente sempre contrario. Sempre contrario, cioè secondo te bisogna vietare tutto. Che poi chi usi droghe debba essere trattato in maniera adeguata, nel senso appunto che bisogna distinguere caso da caso, d'altra parte l'uso personale non è penalmente sanzionato in Italia, per cui credo che sia una valvola di sicurezza abbastanza importante. Cioè, ma, però voglio dire, no? La legalizzazione, perché non si può fare belly coffee shop anche in Italia qui? Bellissimo. Io sono assolutamente contrario, tutto si può fare, però insomma, oddio, andando avanti di questo passo, forse il mercato della droga sarà l'unica cosa che potrà sollevare il appunto, paese dalla crisi economica in cui anche questo governo lo sta facendo sprofondare. Siamo arrivati, non so se avete letto. Secondo me sei contrario, perché se no non li difendi più i trafficanti di droga. Che ragionamento è questo qua? La difesa sta dappertutto. Non so se avete sentito la notizia di oggi di cosa? Della istituzione votata alla Camera, dell'istituzione del registro delle spese giornaliere per tutte le famiglie italiane. Non so se l'avete. No, perché. Allora la Camera dei Deputati ha approvato una norma in base alla quale tutte le famiglie italiane debbono tenere il registro delle spese giornaliere e ci debbono scrivere tutto quello che hanno speso e allegare gli scontrini fiscali rispetto alle cose che hanno comprato. Questo se non è osservato è fonte di sanzione penale. In tutte le case non si campa più qua, veramente, altro che stato di polizia tributaria. Qui è veramente siamo a livello che nemmeno un paese comunista di vecchio stampo sarebbe stato in grado di immaginare. Ecco, comunque Carlo qui quindi, ci sono anche altre notizie oggi. Per esempio c'è quel giocatore che ha giocato anche nella Lazio che ha confessato, ha fatto coming out sull'omosessualità e finalmente anche nello sport, anche nel calcio sono fatti. Ma ormai la situazione sta dilagando, per carità. Cioè, in che senso, scusa? Nel senso che come dite voi, non so se l'esercito di Cruciani, l'esercito di Parenzo siano delle cose vere, ma insomma qui ormai i froci sono all'ordine del giorno, perché è logico, più dai l'esempio, più dai come dire, crei una condizione per cui è tutto normale, anche quelle sono cose normali, e più ovviamente altro che outing. Chissà quanti outing ci saranno andando avanti. Cioè, tu dici che ci sarà c'è un dilagare di questa malattia, dici, no? Insomma, di questa cosa di non questo naturale, vizio, di questo vizio, dilagare, ma la criminalità dilaga, ma si può usare per la criminalità? No, lui dice che siccome ormai la criminalità dilaga. Non gli omosessuali, allora, dilagano gli omosessuali. Allora, se la situazione, non si può usare lo stesso termine. Se la situazione fosse normale, rispetto per tutti, compresi gli omosessuali, ma ciascuno si comporti come un eterosessuale, cioè con la discrezione per le cose che riguardano la sfera del sesso e quant'altro, parlo tanto per intenderci di queste manifestazioni gay pride, eccetera, ecco, che sono veramente delle porcate infinite e che servono soltanto a dare spolvero ad una cosa che veramente, francamente, se uno se la vive per conto suo sarà pure bella per chi ti piace fare certe cose, ma che comunque è una cosa assolutamente, vabbè, ma assolutamente, sai, prenderlo, a qualcuno piace prenderlo in culo, qual è? Fate voi, ma cosa vuol dire fate, ma sono cose naturali, a qualcuno piace prenderlo, a qualcuno piace la sodomizzazione, se lo prendessero loro. No, ma non ti puoi usare il termine dilagare come se fossero dei criminali, questo è agghiacciante. Dilagare? Come fai a usare questo termine dilagare? Dilaga il fenomeno. Perché è pieno di gente che non ha. Sì, beh, insomma, ce ne stanno tanti, non è che ci stanno pochi. Questa cosa nel mondo del calcio, per esempio, nella Roma, secondo te, tu che sei tifoso della Roma, ci sono omosessuali in una squadra? In questo momento no. Che ne sai? non lo puoi sapere. No, qualche cosetta nei tempi passati è uscita. Nella Roma? Nella Roma pure? Ma anche nella Roma, ma anche in molte altre squadre. Ma è normale, a voi sta bene, quindi la normale. Ma cosa ti è successo? Se è qualcosa che non deve destare meraviglia, se è qualcosa che. Ma ti hanno traumatizzato da ragazzi. Ma che è successo? Hai visto che anche Renzi ha detto di essere favorevole, un po', diciamo, alla democristiana, però insomma, anche Renzi vuole fare. Ma Renzi non si capisce a che cosa è favorevole e a che cosa è contrario. Quindi sì, questo pure è vero, questo anche è Galan, il tuo ex compagno di partito Galan, ad esempio, Galan, ma è da tempo che lo sapevo di questa cosa di Galan, di questo vizietto, diciamo, di questo vizietto, insomma, questa porcata, diciamo così, insomma, chiamiamola come vogliamo. Senti, tra droga ormai, tra come va lì il processo? Qualche volta sapremo anche di Berlusconi e non ci dovremmo più meravigliare. No, tu dici no, Berlusconi no, questo è impossibile. E che ne so io non lo so. Berlusconi. Certe rivelazioni, l'outing di questo giocatore, di questo calciatore. Ha fatto un outing postumo. Un giorno farà outing anche Berlusconi. Ma non è vero, dai. Allora vuol dire che finalmente abbiamo uno che ha le palle e che si comporta in maniera regolare. Da vero italiano, come diceva. Perché lei dice che i veri italiani. Lei dice che i veri italiani. I veri italiani non sono froci. Ecco, ma tanto come si per fa intendere una cosa simile? Ma Berlusconi secondo lui, ma che vuol dire? Secondo me, ma che c'entra? Io la penso così, insomma. Secondo me la pensi male, però. Chi se ne frega che la penso male? Basta che non lo prendo male, poi il resto chi se ne frega. Mamma mia, ma perché ti senti? Guarda, la cosa incredibile è che lui si sente minacciato, come. Ma perché? Hai il terrore. Sì, perché è un problema. Ma non ti vogliono a te, non ti vogliono gli omosessuali. Non ti vogliono gli omosessuali, non ti vogliono. Ma non mi avranno mai. Non ti vogliono il professor Taormina. Immagina questo. Io faccio un appello. Faccio l'appello a tutti gli omosessuali d'Italia ad andare sotto lo studio del professor Taormina e a cantargli scendi giù. Che sei froscio pure tu. Va bene, ma non è così. Falli venire che poi dai l'indirizzo del tuo studio. Non mi avranno mai. Comunque, i veri italiani non sono froci. Vabbè, i veri italiani non sono froci. Ma come si fa, professore? A presto. Poi ci stanno alcuni che dirazzano, e pazienza. Va bene? A presto, un abbraccio. Sì, auguri. Ma ricordatevi questa cosa del registro delle spese giornaliere. Il registro delle spese giornaliere. La dovete approfondire questa cosa. Verificheremo. Cioè, in tutte le città, in tutti i paesi, tutte le famiglie, dobbiamo avere il rendiconto della giornata, di quello che cazzo abbiamo fatto durante la giornata. Ma è mai possibile? No, fosse così no. È grave. No, ma è così, questo è stato approvato. Adesso vedrà. Addirittura si deve comprare un libretto ogni anno con cadenze mensili, per come è formato, nel quale se tu hai comprato il preservativo lo devi segnare pure. Certo. E tanto tu non lo usi, che è te frega spesa, te. Tanto tu non lo usi, che te frega. E mica sono frocio io, scusa. Perché solo i froci lo usano, scusa. I froci lo usano spesso, sì. Ma perché, scusa, perché? Perché sennò pigliano le malattie, pigliano fra di loro. Ma anche gli eterosessuali le possono prendere. Ma sì, ma è un po' più difficile, ecco, cioè, perché là non è, vai davanti, non vai dietro, capito? Quello è vero. Paolo da Milano, grazie. Ciao professore, ciao. Paolo. Sì, pronto, buonasera Cruciani Parenzo, sono Paolo da provincia di Milano. Sono ex presidente di una sezione cacciatore, volevo solo replicare sì. al vostro primo. Non c'è tempo, facciamo domani. Domani 18:30 la Zanzara. C'è l'invasione dei froci. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. La sua trasmissione è assolutamente geniale. Radio 24. La passione si sente.